Gentili colleghi all'ascolto, convergete tutti su Radio 24. Sono Filippo, sono al KM236, sto andando in direzione Verona. Andate su Radio 24 che c'è Beppe Cruciani, il conduttore pastroncio lì. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Mi rendo conto che questo sciopero di Radio 24 sia importante, ma se alle 6:30 non c'è la zanzara, faccio una strage. Caro Parenzo, siamo qui! Siamo qui! Siamo qui! Siamo voglio qui! Voglio subito siamo dire qui. Una cosa intanto. Cosa, subito. Cosa vuoi primo, dire? Cosa primo, vuoi dire? Primo, primo, primo. Solidarietà, questo è serio. Solidarietà ai colleghi che hanno scelto di fare sciopero e hanno fatto molto bene. Io ho scelto di non farlo, ma tu, rispetto sì, tutti, ma rispetto di non tu, farlo. Certo, tu sei dipendente, quindi giustamente. Ma che sono c'entra? No, io sono partita IVA, collaboratore esterno, quindi allora non potevo fare sciopero teoricamente. In quanto partita IVA, che gliene frega. Vabbè, cioè dai, che allora. Quindi solidarietà massima ai colleghi che stanno facendo lo sciopero. Io dico però, magari si poteva aspettare, vediamo il piano industriale, vediamo quali sono poi le cose che l'azienda dici? Dirà. E che cosa dici? Come si fa a proclamare il sciopero prima che ci sia un piano industriale? Ma adesso che fai? Non ho capito. Questa prima. La seconda è che c'è un nuovo clima in questo paese. Cioè, attorno a questa ipotesi di candidatura di Padova contro Bitonci, c'è questa Italia silenziosa, che il silenzio assordante sta venendo fuori. Dappertutto, messaggi, migliaia di messaggi che davvero sto ricevendo da questa mattina, di gente che dice davvero ti prego candida, gente, tantissimi padovani, migranti, islamici, sans papier, senza tetto, di tutto. Cioè c'è una Italia bella, ma non radical chic, snob, come dici tu, di tutto. Comitato elettorale si potrebbe mettere in periferia, peraltro a Padova, in città, in periferia della città, abbandonata. Sì. Cioè Padova ha bisogno di rinascere come città, perché è stata divisa da un signore che voleva chiudere i kebab. Cioè quello verrà ricordato come sindaco del kebab. Ma è uno dei capito? Sindaci più amati in Italia. Basta, ragazzi, è chiusa un'epoca, alla riscossa si riparte. La città del santo, lista couscous e polenta. Perché tu puoi tenere insieme, adesso lo dico come battuta, ma in realtà è vero, il couscous e la polenta nella città del santo, capito? Questo uomo ha diviso la città. Tu ridi, ha seminato odio, ha cacciato la gang, ha fatto una delibera per delibera dicendo che c'era il rischio di Ebola a Padova. Ebola! Ha evocato Ebola questo signore qui. Ma è finita un'epoca, si è chiusa un'epoca. Se ha vinto Trump in America e in passato ha vinto Bitonci a Padova, può vincere perché anche non può vincere? No, dico un Parenzo qualunque. Io posso essere uno qualunque, posso avere una maschera, non è importante. È importante le idee, la solidarietà, il rilancio di una città. No, ma ne parleremo ancora. Ma sicuramente ne parleremo, sicuramente ne parleremo. No, ecco, perché no, non c'è dubbio, non c'è dubbio, ne parleremo. Non vorrei che. No, per carità. Intanto parla Berlusconi. Cosa della sulla mia candidatura? No, cosa quello no. Non oltre a dire che il centrodestra è compatto. Sì, compatto un cavolo, hanno fatto cadere Bitonci. Esatto, tra l'altro. Guarda, l'ho detto in un'intervista che uscirà domani al mattino. No, voglio dirti solo questo. Domani uscirà, poi vado via. Domani uscirà un'intervista mia al mattino di Padova. E io ho detto. Spero sia citata la zanzara, immagino. Siccome Bitonci è stato fatto cadere dalla sua stessa maggioranza, ho detto ci sono molti più migranti nella maggioranza di Bitonci che in tutta Padova. Cioè quei migranti, questo ho detto, ci sono più migranti lì, cioè quelli che sono passati da una parte all'altra per farlo cadere, che in tutta la città. Vero problema dei migranti, appunto, il vero problema dei migranti ce l'aveva in maggioranza, perché erano migranti che adesso hanno chiesto da rifugiati politici di essere rifugiati nell'opposizione. Questo è quello che succede a Padova. I veri rifugiati politici stavano nella maggioranza di Bitonci. Su questo direi chiudiamo, diamo la linea ai colleghi che fanno lo sciopero giustamente per spiegare la loro ci sono ragioni, non ci... andiamo a casa, mettiamoci ai gazebi, casa per casa, strada per strada, e lavoriamo per riscattare questo paese. Basta odio. Perché è così? Basta odio. Allora Berlusconi, fermo contro l'altro. Oddio, Berlusconi, fermo. Berlusconi parla ancora, io non sopporto queste cose, parla ancora del rischio, oltre a dire che abbiamo detto il centrodestra è compatto, che è una minchiata. No, compatto niente, ha appena assicurato anche Parisi, se non interessa niente a nessuno, ma lo candida. Si capisce, ragazzi, ci vuole Parenzo, ve lo dico. Berlusconi, il rischio di una deriva autoritaria col sì al referendum. Ragazzi, io non so quello che vedrò, lo dirò venerdì, eccetera, prima del voto. Però che Berlusconi, ancora per l'ennesima volta, dica che c'è il rischio di una deriva autoritaria in questo paese. No, quando lui era il... Prima non c'è il rischio di deriva autoritaria. Nessuno. Lui nessuno. Era il primo a volere l'uomo a forze, esatto, i poteri a un solo partito, e il presidente del consiglio che c'aveva non era più Lacci e Lacciuoli. Com'è che diceva Berlusconi? Sì, Lacci e Lacciuoli. Così diceva, no? E sentiamo, sì, ma non aggiungere altro, va bene così. Chiudi la trasmissione qui. Perché ma che chiudo che sono 18:42? Ma no, che è bella frizzante così in apertura. Non ha senso andare avanti perché rovini tutto, se no rovini tutto. Ma che rovino tutto? Poi diventa volgare. Andiamo a lavorare in città, ricostruiamo il tessuto sociale di questa città. Berlusconi con l'ennesima minchiata della deriva autoritaria. Avanti, sentiamo. E non è vero poi che questa riforma non sia pericolosa, perché potrebbe dare vita ad una deriva autoritaria, lo ribadisco, con un solo leader che è padrone del suo partito, potrebbe diventare padrone del governo, padrone della Camera che fa le leggi, padrone della scelta del capo dello Stato, dei membri della Corte Costituzionale e del Consiglio Superiore della Magistratura, e quindi padrone dell'Italia e degli italiani. È quello che volevi tu, Berlusca, te lo dico, è quello che volevi tu. È quello che voglio, io ti abbraccio, ti voglio bene, sei numero uno, il puttaniere numero uno, ma è quello che volevi tu, esattamente quello che volevi tu. E adesso dici di no, lo capisco, la politica è fatta così, per carità. Mm. Poi rispolvera, caro Parenzo, alla questione dell'Università di Siena. Pare incredibile, ma a anni di distanza. Ti ricordi quella barzelletta dell'Università di Siena che raccontava sempre Berlusconi? Sì, ne raccontava tante. No, no, barzelletta, no, barzelletta vera e propria. Quella storia incredibile, l'Università di Siena ha certificato una cosa che racconta da 20 anni, credo. Senti, senti. Nei 9 anni di governo, qualche giorno fa, qualcuno dell'Università di Siena ha detto che abbiamo fatto più noi in 9 anni che 50 governi che ci hanno preceduto nei 50 anni precedenti. Il famoso rapporto dell'Università di Siena, mi ricordo, sì, che lo portava sempre in giro. Sì, ma quello anche Il Sole lo pubblica sempre delle città però ragazzi c'è anche Razzi, c'è anche adesso, ci accuseranno di dire voi siete a favore del sì. No, noi le minchiate dette da quelli del sì e da quelli del no le riportiamo tutte, questo è giusto. Le questo riportiamo è tutte, le questo esagerazioni, le puttanate, le sparate, questo è onesto, questo è onesto, questo è onesto, onestissimo, questo non onesto, non lo fa questo nessuno, giusto, questo è fa. Giusto, questo è giusto, senti questo razzi, è giusto, senti quando razzi. È giusto, è giusto, questo senti è giusto. Senti. Se si vuole vivere ancora in Italia, se no altrimenti dovremmo tutte ritornare a emigrare fuori dall'Italia, perché altrimenti diventerebbe come quasi una dittatura. Io che conosco già varie dittature preferisco stare in Italia in democrazia, ma votate no. Signor Razzi dice che saremo quasi in dittatura, sì. Dunque dovremmo emigrare. Mi sta chiamando Tullio De Mauro della sì. Lo so, sì, no, lì ci volevo con la grammatica più che altro. Ciao, grazie, sì. Mi stanno chiamando. Adesso sbrocchi per questa cosa qua, adesso sbrocchi per questa cosa, guarda, adesso iniziamo. No, sono forza di governo, Salvini, non sbrocco mai. Salvini, Boldrini, braccia rubate all'agricoltura, senti, senti. Ma che senso di democrazia ha una tizia che dovrebbe rappresentare tutti come presidente della Camera, che dice che il nuovo presidente degli Stati Uniti è inquietante? Queste sono veramente due braccia rubate all'agricoltura, anzi, probabilmente non riuscirebbe neanche nel nobile mestiere dello zappar la terra, perché prevede un coordinamento e una concentrazione che probabilmente la signora non ha. Ed ora Donald Traffico. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta La Zanzara. Filippo, 24 anni, studente di economia a Padova. David, la maggioranza silenziosa è con te. Non succede, ma se succede, non succede, amico mio, ma se succede. Lo slogan potrebbe essere: non succede, ma se succede, non succede, ma se succede. Allora ragazzi, ci siamo persi qualche giorno fa un exploit pazzesco dello sgarbone nostro a linea notte, una roba meravigliosa che io sottoscrivo al 100%. A un certo punto c'era una del manifesto, una tale Preziosi, non so come cazzo si chiama, la quale diceva: però c'è il Ku Klux Klan, c'è il Ku Klux Klan che è terribile, un salto indietro nel tempo. Anch'io l'ho detto questo. Molti dittatori europei, infatti hai detto una cazzata, molti dittatori hanno europei hanno manifestato per Trump. E vabbè, ho capito, ma è lo zero virgola, ci sono zero virgola, ma che ma si sono risvegliati. Però. Ma chi è se ne frega del Ku Klux Klan, dai, ma che significativo, dai, ma non dire cazzate. È significativo che alzino la testa. Anche cosa, anche Forza Nuova vota per il no al referendum. Che dici, come Travaglio o come altri? Non dire no, sono... un momento, ma quella è una riforma. Aspetta un attimo. Allora, a un certo punto Sgarbi gli risponde così, senti, senti. Sì, la democrazia è il rispetto degli elettori, quindi chiunque faccia sfottò. Fermi, fermi, che andate in onda un'altra roba. Aspetta, aspetta. Dopo, dopo, dopo. Maurizio da Firenze, vai, sentiamo dopo, vai, che c'è stato un piccolo problema. Pronto? Dai, Maurizio, vai, dimmi. Pronto? Dimmi, dimmi, Maurizio, dimmi. Oh, c'è Parenzo. Ecco, sì, sì, eccoci. C'è Parenzo, c'è. Oh, Parenzo, ascolta, ti volevo dire che i rifugiati che vengono da paesi di guerra, maschi, tra i 15 e i 30 anni, vanno immediatamente rimandati ai loro paesi. Cosa ci stanno a fare in Italia? Eccolo qua. Eccolo qua. In che senso, scusa, qua. Perché vanno rimandati ai loro paesi? Spiegami. Perché devono stare a combattere per la loro patria. Cioè, là, questi partono, lasciano le mamme, i figli, le sorelle, vengono in Italia. A parte che la maggior parte di quelli che vengono non sono rifugiati da zone di guerra e non hanno alcun diritto all'asilo politico. Là, infatti. Tu dici vanno guerra, rispediti immediatamente a combattere. Vabbè, non è che mica un dovere combattere, amico mio, Maurizio. No, però vengono qua a farsi mantenere da noi. E poi noi mandiamo i nostri fratelli e figli. Ma cosa ma io dico, ma il cervello loro. Che cosa le dice? Cioè, uno in genere, prima di telefonare, di comporre l'800240024, dovrebbe riordinare quelle poche idee ma confuse che ha in testa, sì, e poi telefonare e dire delle cose vere, anzitutto, cosa che lei non ha detto. Ma no, cos'è poi... che non è vero, Parenzo? Ma sta facendo una confusione. Allora, Maurizio dice ma non si possono avallare qualunque fregnaccia venga detta da qualunque simpatico ascoltatore. Che sta dicendo che stai dicendo delle fregnacce pazzesche, ma, no, dice... ma non ma sei, è evidente. Parenzo, so che non sei una persona molto intelligente, vabbè, che dia Dio. Piacere, Parenzo, salve, mi dica. Ha parlato Einstein, prego, dica, forza, avanti. Io non credo a Dio, quindi già sono un passo avanti. Ha parlato il genio della lampada, avanti, forza, sentiamo cosa da dire, dai. Dov'è che sbaglio, dimmi. Non è che sbaglio. Ma vabbè, è difficile rimandare indietro quelli che arrivano. Spieglielo tu, perché altrimenti questo non capisce. Allora, già arrivano e sono rifugiati. La legge prevede che devono essere accolti, ecco, quelli rifugiati, che sono una minoranza. Civile, perché l'Europa è un luogo civile, sì, dove c'è una cosa che si chiama Stato di diritto. Civiltà, ma che c'entra? Allora, aspetta. La differenza tra un paese civile, la differenza, glielo spiego io, la differenza tra un paese civile e un paese incivile sono le leggi e lo Stato di diritto, cosa che noi siamo, l'Europa. È, capito? Però, aspetta, questa è Maurizio, la differenza fondamentale tra le teocrazie e le democrazie. Allora, questo è il primo aspetta punto. Maurizio dice: arrivano questi qua, siccome sono in arrivano forze, arrivano questi perché, siccome fanno perché affrontano le carrette, affrontano il viaggio in mare così. Senta, affrontano, premio, mandano donne e bambini, scappano dalle guerre così. Cioè, tu li manderesti via, Maurizio? Li manderesti via? Scusa, Parenzo. Sì, sentiamo. Scusa, mio nonno? Sì. Ok. Negli anni 30 e 40, quando è arrivato il fascismo, non è che è preso e è scappato in America. Beh, c'è gente che scappava. Mio c'è nonno gente... è scappato in Svizzera, ad esempio. Era un avvocato ebreo di Padova e siccome c'erano le leggi razziali, è scappato in Svizzera. Ha capito? Bene, io parlavo di mio nonno che non era ebreo, e chissà da che parte stava. Non è un diritto andare lì a combattere, dai, non è un diritto andare a combattere contro le dittature, dai. Stava, comunque. Certo, ha fatto il partigiano. Vabbè, ciao, Giuseppe Vercelli, vai. Giuseppe da Vercelli, vai. Sì, Dimmi Giuseppe. Sì, dimmi. Buonasera. Dimmi. Io telefonavo perché ho sentito che Parenzo si vuole candidare a sindaco di... Ma hanno detto se sono... Qualcuno ha detto la candidatura Parenzo sindaco, io ho detto se c'è una coalizione vasta che mi sostiene contro Bitonci, sì, siamo di Padova. Allora Giuseppe, dimmi. Cioè, dunque, no, ricostruita una città dove impera l'odio. Dai, Giuseppe. Un suggerimento a Parenzo per il nome della coalizione. Sicuramente un nome che può anche tirare molti voti. Sì. Il couscous clan. Ecco, una battuta ma riuscita. Semmai si potrebbe fare invece couscous e polenta. Ecco, bellissimo. Altro che. Beh, potrebbe essere la lista couscous e polenta, dove noi uniamo la tradizione della polenta del Veneto con il couscous, perché possono convivere nella città del Santo. Va bene, ciao Giuseppe, ciao. Allora ragazzi, nei giorni scorsi un signore a Ostia, o comunque da quelle parti lì, la via del mare verso Ostia, è stato colpito all'occhio da da un poliziotto perché ha forzato un posto di blocco. 71 anni, lui dice di essersi fermato subito dopo, di essere rimasto in qualche modo, non ha visto il posto di blocco. Dice di averlo forzato, hanno sparato, un poliziotto ha sparato e questo qua pare che abbia perso l'occhio. Non mi sono fermato subito dopo, dice, ma solo per questo avevano il diritto di colpire? Sentitelo. Braccio, gomito, l'occhio hanno operato, l'occhio non c'è sta più, ho perso la vista. Meno male che non ho perso la vita, mi sono salvato, mi ha ammazzato. Alle 8:15 stavo rientrando a casa, prendendo le vie del mare, ho incontrato il semaforo era rosso, ho aspettato che diventasse verde e poi sono partito. Partendo ho visto che ci stavano delle autoambulanze ferme che stavano facendo un pronto soccorso dove dovevo passare io. Però mentre sono arrivato lì, a passo d'uomo, piano piano, è uscito fuori una guardia dalla destra. Mi ha detto fermati, che mi sta venendo addosso, e mi ha sparato, senza motivo. Ragazzo, però se non ti fermi al posto di blocco, 71 anni, per carità, uno spara pure, no? Poveretto, cioè, adesso perde un occhio, per carità, dice che quello non deve fare più il poliziotto, eccetera. Però se tu non ti fermi al posto di blocco, se non ti fermi, uno poi che ne sa chi c'è in macchina, anche se c'è la 500 d'epoca, dai. Parenzo, ho anche un motto per la tua campagna. Let's make Padova great again. Siamo al top. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15:30 tutti i giorni su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da... Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. La Zanzara. Giornata tipo, entri al lavoro, cuffiette, zanzara tutto il giorno e vaffanculo a tutti, non mi devono rompere i coglioni. Forza Cruciani. Ma che bello ragazzi, 19:06, 19:07, Parenzo, che bello! Solidarietà ai colleghi del gruppo Sole 24 Ore che stanno facendo lo sciopero per rivendicare giusti diritti e non per mi sembra vero, non mi sembra vero, non mi sembra vero. Sgarbi è pronto, ragazzi? Sgarbi è pronto? Sì o no? Sgarbi, dai, Sgarbi, che l'abbiamo un po' perso questa cosa qua qualche giorno fa. Linea notte. Sì. Litiga con una signora che si chiama Preziosi del Manifesto, si parla sempre di Trump. Sì. La quale dice il Ku Klux Klan ha appoggiato Trump, è una cosa terribile, un salto indietro nel tempo. Quando sugli autobus c'era la divisione bianchi e neri, ma non c'è ombra di dubbio, è proprio così. La risposta meravigliosa del professore, sentila. Quindi chiunque faccia sfottò, evochi i vari De Niro, A fronte di un Clint Eastwood che ha detto una cosa molto semplice, sappia che per il momento Trump non è un assassino e Hillary Clinton è un criminale di guerra che ha ucciso con il suo potere persone innocenti. È chiaro o no? Sì, allora, beh, mi pare abbastanza chiaro. Da Juncker ai tuoi ospiti il diritto dei cittadini di votare chi vogliono, che per intanto ha le mani non insanguinate. Sì. Cito Sigmund Ginsberg e suo figlio che ha detto: non voto Hillary perché Trump è un problema dell'America, Hillary Clinton è un problema del mondo. Del mondo, una allora, criminale di guerra. Mi si possa smentire se non è così. Allora, criminale di guerra è la mia accusa. Ditemi l'accusa contro Clinton, che ha toccato il culo a una ragazza, che è stato politicamente scorretto. In Italia abbiamo avuto, siccome c'era un altro che toccava il culo, che era Berlusconi, uno buonissimo, che era Monti, diventato Presidente del Consiglio perché aveva una, come dire, concezione sessuale estremamente casta. Ma non è che la politica la fanno i casti. Mitterrand, Fidel Castro ha avuto 35.000 donne. Non mi pare che non sia sessista Fidel Castro. Cominciamo ad attaccare lui come attacchiamo Trump. Scriva il manifesto quanto ha trattato la donna come un oggetto Fidel Castro. È la verità. Allora cominciamo a vedere qualche titolo, Giusi, visto che siamo riusciti a ripristinare. È un criminale di guerra come Milosevic. E smettiamola di attaccare uno perché c'è il Ku Klux Klan, che comunque è meno pericoloso dei dissidenti messi in galera da Fidel Castro. Fidel Castro è stato un comunista radicalmente totalitario. Quel gruppo che manifesta è un gruppo di fascisti involontari e il regime comunista di Fidel Castro ha fatto più morti e più dissidenti in galera di quanto non abbiano fatto le smargiassate di Trump. Fermiamoci lì e guardiamo i colpevoli e i criminali prima di accusare quelli che non hanno fatto ancora niente. E allora non attaccare Trump, attacca Fidel Castro, attacca Obama, attacca Guantanamo, sui diritti, non attaccare uno che non ha fatto un cazzo. Sui diritti umani attacchiamo con la misura e la ha stessa solo parlato, a tutte. Ha solo parlato. Vabbè, intanto ha detto un programma e noi di questo stiamo Fidel parlando. Fidel Castro ha agito. Sui diritti umani il programma misura non conta un cazzo, sono parole. I tuoi, Obama e Fidel Castro, hanno agito contro i diritti umani. Sui diritti umani la contro misura umani è sempre agito. La stessa allora, a tutte le latitudini. Dire, Fidel Castro. Ha ragione il professore, ma ragazzi. Ma, che... ma ha ragione! Ma che... State rompendo ragione il cazzo su uno che fino adesso ha detto solo delle parole. Non è responsabile di parole. Nulla. Ma di parole. Nulla, di ma nulla. Ha fatto un programma elettorale. Ma non che parole. Programma? Ma ha fatto stai un tranquillo. Programma elettorale dicendo che non vuole musulmani che arrivino in America. Ragazzi, ha solo annunciato una cosa adesso. Ha solo annunciato che sulla base di un programma che caccerà. Ma che nefaste. Caccerà. Gli irregolari criminali, gli extra-americani, quello che cazzo è, non comunitari, e gli illegali, oppure quelli che commettono crimini, questo ha annunciato, poi che lo farà è un altro discorso. Allora ragazzi, dove andiamo? Andiamo a Milano, Cosmo, ecco Cosmo ragazzi, Cosmo, chi è questo? Cosmo, amico mio. Dimmi Cosmo, Fatica ragazzi. Dimmi Cosmo, dimmi. Eccomi, ho tolto il viva voce. Sì, meno male. Allora Berlusconi? Sì, Berlusconi. Cosmo. Dimmi Cosmo, dimmi. Che vorrei anche suggerirgli il nome decente per il partito. Sbaglia dicendo che qualora abbia esito favorevole al sì il referendum del 4 dicembre, ci sia il rischio di una deriva autoritaria. Sbaglia dicendo che è un rischio, perché c'è l'assoluta certezza. La certezza non Cosmo. Della deriva. Il Ma di Cosmo. Che cosa invece? Di cosa c'è invece? L'approdo. La Prodo dove? È la radio, questo la bisogna parlare. Anziché la deriva, sì, c'è la certezza dell'approdo autoritario. Approdo autoritario. Tutto ciò che è evidente già in corso, sì, il signor Licio Renzi, il cui anagramma è terzo in meta. Terzo in meta è l'anagramma di... Che vuol dire terzo in meta? Scusa, posto che quello che dice abbia un significato. Ecco, no, un senso, non un significato. Meta, l'annullamento totale della nostra Costituzione. Ah, l'annullamento totale della nostra Costituzione, ho capito. Dunque? Vorrebbe dire, sì, qualora prevalesse il sì. Sì? Che cosa? Che il tutto, sì, verrebbe portato nelle mani di quelli pari a, sì, quelli che hanno assassinato Aldo Moro. Vabbè. Allora qualcuno direi mi spieghi, che siamo al delirio puro, eh? Qualcuno direi che... mi ecco, spieghi, meno direi male, che siamo al delirio meno puro. Male, e meno io male, dimostro meno con male, una meno semplice male domanda che, sì, farò una qual è la domanda? Volta. Avanti. No, falla pure adesso, che tanto così completiamo il delirio. Dai. Prima, sì, ne faccio un'altra di domandina. Fai un'altra domandina, sì. L'articolo è passato il signore numero uno che noi abbiamo. È passato il signore con la punturina? Chi sono gli infermieri della punturina? Ma non lo so, appunto, gli infermieri sono passati oppure ancora no? Oppure evidentemente non sono passati, Parenzo, evidentemente non sono passati. Allora, non ci sono infermieri in zona. L'altro di Varese, sono quelli gli infermieri tuoi? Ma non lo so, qualsiasi infermiere evidentemente non è passato, ma perché sono altrimenti... Sono infermieri sicuramente. Allora, visto che l'articolo 1 della legge numero 1, sì, al primo rigo sì, dice, sì, che l'Italia è una repubblica democratica, sì, virgola, fondata sul lavoro, va bene. Quindi con questa frase, sì, prevede la sovranità del popolo, sì, che sceglie i propri rappresentanti e gliene affida il potere. E allora? Detto questo, vi si spiega, vi spiegate perché non viene fatto un discorso semplicissimo e per quale dire sarebbe? Che in base alle leggi, sì, Renzi e non solo potrebbero, Renzi e compagni, potrebbero? E secondo me dovrebbero poter essere considerati golpisti. Artefici. Chi, scusami, triplo... golpisti? Renzi e i suoi, no? Ah, ho capito. Artefice di un triplo golpe. Triplo addirittura? Perché? Triplo golpe. Ah, pensavo... Di questo non si spiega come mai non avviene questo. Vabbè, puoi chiamarci, puoi chiamarci dopo. Che voi invitate, sì, in qualunque mezzo di comunicazione, sì, parlando del no, in tanti favoriscono il sì. Perché non si dice che in base alle leggi... Vabbè, un delirio. Ciao Cosmo, ciao. Amici della Zanzara, lasciate perdere. Io la Zanzara non la voglio sentire, perché mi interessa il traffico. Voglio sentire il traffico. Capito? OneExpress.it. Il pallet network italiano che viaggia in Europa. Vi presenta La Zanzara. Don't you worry, I'm all right, Jack. We've never had it so good. David, ti prego, resta così perché noi ti vogliamo così. Hai una verba ultimamente, cioè hai un alto passo. Cosa ti è successo in questi 5-6 mesi? A novembre stai toccando veramente l'apice e puoi superarti, perché secondo me sei al top assoluto. Grande David. Allora, caro David, c'è un paese che è stato finora in silenzio, quasi sommerso dalle voci di razzismo, ma sta venendo fuori questa parte di paese d'Italia. Siete in tanti, lo so, e grazie. Noi saremo come Bill de Blasio, il grande sindaco di New York, che ha silenzio a Padova. Saremo il modello Bill de Blasio, sindaco di New York, che ha distribuito agli immigrati senza la green card una carta d'identità cittadina, sì, che equivale a una sorta di sanatoria. E ha già detto che qualora Padova sarebbe in mano agli immigrati, immigrati clandestini, impazzerebbero ovunque, immigrati clandestini ovunque, ladri, rom, faresti 3, 4, 5 campi rom. Ma cosa faresti con rom a Padova? Richiudiamo i campi rom, per fare cosa? Daresti le casette? Facciamo case popolari, costruiamo per case per tutti, costruiamo case popolari, costruiamo case popolari, diamo un grande piano di edilizia pubblica, ma non è questo edilizia il punto. Edilizia pubblica non c'è dubbio. Non c'è dubbio. Bill de Blasio, sindaco di New York, ha distribuito agli immigrati senza la green card una carta d'identità cittadina. Pensa cioè sostanziale, e ha già detto però, che ragazzi, qualora Donald BB Trump, sì, quello col parrucchino sì, giallo, gli chiedesse i nomi di questi qui, lui li rifiuterebbe. Sì. Bravo, bravissimo. Diamo allora la notizia. Esatto. Fermi esatto, tutti, fermi tutti, ragazzi. Siamo tutti l'altro con giorno Bill de Blasio. Accade a Melog, programma di Nicoletti l'altro Melog, giorno. Ottimo Melog. Senti. Ottimo Melog, un buon ottimo programma. Antonella da Napoli, senti. Chiama Antonella da Napoli. Senti. Chi entra? Ah, sì. Antonella. Sono in linea? Certo, sta parlando. Volevo parlare a proposito dell'abitudine nel mio piccolo condominio di una casa di vacanza di due vicini di fare i gattari. Loro ritengono opportuno distribuire piattini di carta con residui di cibo in modo da attirare tutti i gatti del vicinato, i quali tra l'altro vengono a defecare sul mio balcone o nel mio giardino. I vicini gattari, i loro gatti defecano nel mio giardino, senti. Per cui adesso ci accingiamo a mettere il veleno per uccidere i gatti. No, non si può. Cosa che mi fa orrore, perché tra l'altro a me gli animali piacciono. Cioè, siete arrivati a questa situazione estrema di gettare sì, del veleno ai gatti, ma non sì, si fa. È come lei. Ma non cosa si può fare, dire? È un reato. No, è un reato questo. Poi, sì, sì, lo so che è un reato. Ma poi i gatti sono incolpevoli. No, mi scusi, dottore. Io metterò. Sarei più coerente avvelenare i vicini piuttosto che i gatti. Anche a questo abbiamo pensato, però. Per i gatti non c'entrano nulla. Che è un reato maggiore, forse è un reato maggiore. Non so di questi tempi, non so dirle cosa, sì, per cosa rischierebbe di più. E poi io non incorro in nessun reato, perché io nella mia proprietà privata ho diritto di mettere il veleno per i topi. No, lei con questo escamotage. Sì. Cioè, capito? Questa qua vuole uccidere tutti i gatti dei vicini con la paraculaggine di distribuire nelle vicinanze della sua abitazione, che ovviamente dove stanno anche i vicini, il veleno per topi. Antonella da Napoli, chiamiamo subito. Pronto? Pronto? Pronto? Dove sono i gatti? Pronto? Pronto? Sì, il gatto, per favore. Che dice? Il gatto, dove è andato? A casa sua. Il gatto, dov'è? Pronto? No, mi scusi signora, mi scusi se l'ho disturbata. Pronto? Prego. Mi scusi prego, signora. Qui è la Lega Protezione Animali. Abbiamo sentito un suo intervento a Radio 24, sì, in cui lei dice che vuole uccidere dei gatti. No, non voglio uccidere i gatti, voglio mettere il veleno per i topi a casa mia. Ho capito signora, però lei capisce che è una cosa. No, a casa mia sono libera di mettere il veleno per i topi. E quindi ho capito, però i gatti muoiono col veleno per i topi. No, ma perché i gatti abitano a casa mia, i gatti non abitano a casa ho mia. Ho capito, però se passano. Vuol dire che chi è attento alla salute dei gatti non li farà passare. Ma i gatti non è che sono non si possono comandare così, magari passano, mangiano questo veleno e crepano. Pazienza per loro, ma io ho il diritto di combattere i topi a casa mia, poiché ho avuto dei topi che sono saliti con un rampicante. Ma scusi, ma i gatti mangiano i topi? I gatti mangiano i topi, sì, ma questi qua sono troppo nutriti per mangiare i topi. Ho quindi, capito, signora, quanti quindi, sono questi gatti? Beh, saranno 20, 25. 20, 25? Sì. Vabbè. Ma sono come sono? Cioè, sono pericolosi? Perché lei... Senta, ma lei vuole scherzare? Ma perché sono... No, noi siamo della Lega Protezione Animali, signora. Anch'io, guardi. No, lei non mi pare, signora, non mi pare. E perché lei protegge i topi? Io proteggo i gatti, lei li vuole ammazzare, li vuole avvelenare. Io voglio ammazzare i topi a casa mia e sono pienamente nel diritto di farlo. Aspetti che le passo il funzionario, un attimo solo, signora. Un attimo solo, c'è il funzionario, le vuole parlare, un attimo solo. Io non ho tempo, guardi. No, tre secondi le passo il funzionario. Tre secondi soli, aspetti. Sì, pronto, buonasera. Pronto. Chiediamo scusa buonasera del disturbo. Buonasera a lei, prego, cara. Buonasera. Dunque, siamo venuti a parte in base a una telefonata che c'è stata. Sì. No, no, calma, calma, calma. Che c'è stato, lo so, sì. Lo so. No, no, no, no, no. Noi burocrati dobbiamo fare il punto su tutto. Ci no, è giunta... no, guardi che io ho i nipotini in questo momento da far cenare, quindi non ho molto tempo. Non col cibo dei gatti, però. Se può affrettare la sì. sua, allora, la sua, il report 45 ci dice, siamo venuti a parte nel nostro ufficio competente, sì. articolo 4, sì. che lei sarebbe intenzionata a commettere nel suo giardino, nel suo internato, no, no, nel no. suo scantinato, nella sì. sua sì. spelonca, sì. non so come definire, sì. una strage. Allora, ai sensi dell'articolo del codice no, civile... Guardi, no, lei si sbaglia, perché anche i comuni organizzano le stragi dei topi e quindi si immagini no, lo fanno no, per no, strada. No, no, figurati no. se io nella mia proprietà privata non ho il diritto di uccidere mi topi. Io permetta ho il diritto interloquire... di uccidere i topi a casa mia. E mi se permetta... lei ha i topi a casa sua... Faccio lo stesso. No, io non ho topi a casa mia perché sono una persona pulita. Mi permetta di interloquire con lei, signora. Per... Cioè, hai capito sta vecchia satanata? Cioè, da un certo punto di vista la ammiro pure, eh. Cioè, per ammazzare questi gatti che gli rompono i coglioni, dice, tanto io metto il veleno per topo. E poi, no? Cioè, poi, se quelli prendono il veleno, cazzi loro. Allora, Parenzo, notizia che arriva da sì. Ficarolo, provincia di Rovigo, famoso albergo, te lo ricordi? Com'è che si chiamava l'albergo che non mi ricordo più? L'albergo di Ficarolo, quello dove c'era il proprietario, no? L'hotel Lori, l'hotel Lori. E hanno piazzato 15 migranti alla fine. E l'albergatore, mitico Fogli, si barrica. Ma solo si barrica? Sì, si è barricato, si è incatenato, si è barricato. Addirittura ha avuto un leggero malore, poi ha detto vi farò pagare tutti i danni, non consegno le chiavi, eccetera, eccetera. Intanto, i migranti sono dentro, 15 migranti, che vergogna, guarda. Il proprietario di un albergo che si incatena mentre i migranti vengono portati a forza dall'autorità è veramente una vergogna. Che scene è pazzesche. Veramente una vergogna. Scene pazzesche. Ma che scene pazzesche? Tu sei d'accordo col fatto che li possono piazzare là dentro? No, pazzesco è quello che si è barricato, ovviamente. Questo mi pare evidente, no? Perché? Ma come perché? Ma come perché? Ma ragazzi, ma che con quello non ma vuole, chiedi non anche vuole cedere. Perché? Chiedi chiamiamolo anche subito. Perché? Chiamiamo subito, chiamiamo ma racconta subito. Cosa ha fatto questo qui però? Che ha fatto? Che cosa ma ha racconta fatto? La storia di questo signore, altrimenti gli ascoltatori la sanno la storia di questo signore. Ha trattato fino all'ultimo, alla fine ha detto no, io non ve lo allora, do. Questo signore qua si era presentato in prefettura, questo aspetta, fammi sentire, aspetta. Pronto? Fogli? Sì. Che succede? È riuscito a fare qualcosa oppure abbiamo i migranti dentro le stanze? Io sono solidale con lei, eh? Chi è che parla? Sono Cruciani, ma sono solidale con lei, Fogli. Sono solidale con lei al 100%. Cruciani? Sì, sono solidale con lei al 100% per questa storia. Lascia stare, non ne parliamo, dai. Ma che è successo alla fine? Te l'hanno messi dentro le stanze lo stesso? Sì. Ma non sei incazzato? Non ti sei legato? Non no, ti sei incazzato? E cosa farai adesso? Non lo so cosa faccio, cosa vuoi che sappia? Cosa fai? Cosa farai? Farai ricorso? Cercherai di altre azioni eclatanti? Cosa vuoi fare? Farò tutto quello che posso. Ma chi è stato a volere questa cosa? Il prefetto alla fine? Sei impuntato? Sì, penso di... è l'unico che lo può fare. Ma spiegami una cosa, quanti ce ne sono dentro il tuo albergo? Non lo so, 15 mi pare. Ma come fai a non saperlo? Sei lì? Sì. Ci sono 30 tra carabinieri e poliziotti, perciò... Tu praticamente sei... è quasi impossibile che tu entri in quelle stanze lì, che sono le tue stanze, o sbaglio? Esatto. Non cioè posso. Tu non puoi fare niente, praticamente. Cioè, niente. Ti hanno requisito l'albergo. Esatto, bravo. Una parte o tutto l'albergo? Spiegami. Tutto l'albergo mi hanno requisito. Cioè 15 migranti stanno occupando tutto l'albergo? Esatto. E tu dove dormi, scusami? E io ho il mio appartamento, quello è un altro discorso. Sì, no, certo, no, per capire, capito? Voglio semplicemente capire. Cioè, alla fine ti hanno requisito l'albergo. Esatto. Contro la tua volontà, mi sembra, no? Mi sembra anche a me. Non lo so, a meno che non hai raggiunto un accordo, o no? Nessun accordo. Alla fine te l'hanno requisito. Dunque, quanto ti daranno alla fine? Ti daranno qualcosa? Ti daranno? Non lo so. Ma mi sembra. Non so niente, Cruciani, dai. No, Fogli, mi sembri sconvolto. Hai avuto anche un malore, ho letto da qualche parte. Pronto. Sì, esatto, sono già sconvolto abbastanza di mio. Ma che hai avuto? Lasciami riposare. No, per carità, attimo. Ti lascio riposare, ma che hai avuto oggi? Un malore sono un cardiopatico, cosa vuoi che ti faccia? Ma vi pare normale che un signore che gestisce un albergo senza la sua volontà arrivi a un certo punto, i carabinieri, la polizia? Non lo puoi chiedere a me. No, te lo chiedo a te, lo dico agli ascoltatori, lo dico a tutti, un albergo di proprietà privata. Io ti ringrazio, ma non lo se lo chiedi a me ti dico di no. Ma fai una battaglia, ma legati, incatenati, vai sotto la prefettura, fai qualcosa, Fogli. Fogli. Senz'altro. Ma cosa senz'altro? Ma aspetta, cosa dite? Ti passo Parenzo, ti passo un attimo Parenzo, abbi pazienza, un minuto, aspetta, aspetta. Ma cosa, allora, signor Fogli, premesso che mi spiace che sia avuto un malore, quello mi dispiace, ma nel merito, cosa si mette a fare le barricate se è andato lei all'inizio a trattare e ha dato la disponibilità a dare l'albergo? Guadagna pure dei soldini. Lo mandi a fare in culo, però, lo mandi a fare in culo tranquillamente. Ma che clima c'è in quel paese? Che clima c'è? Che clima state Fogli, creando? Lo mandi a quel paese, lo mandi a quel... Cos'è che ha chiuso adesso? Ma si chiude il telefono in faccia alla gente, ma io non ho capito. Non ha voglia di parlare quando le cose sono abbastanza chiare. Ha trattato fino all'ultimo. Ha trattato fino all'ultimo e alla fine gli ha fatto una pernacchia. Ha fatto una pernacchia enorme. La proprietà privata è sacra. Ha fatto la trattativa per guadagnare di più sui migranti. Sacra la proprietà privata. Ha fatto la trattativa per guadagnare di più sui migranti, allora. Sì, sì, eh? Ha fatto la trattativa per guadagnare certo, di più. Certo, il la proprietà privata del è sacra. Ma è che sacra la proprietà privata? Io delle mie cose che lo Stato faccio quello che voglio. Ma che razza di messaggio distorto stai Ma che messaggio? Non c'è dubbio, ma le mie cose faccio quello che voglio. Io posso anche bruciare l'albergo. Lo voglio bruciare. Lo bruci. No, quello è un reato, se brucio l'albergo è un reato. Appunto, che cosa suggerisci? Fermi tutti. Siamo alla follia comunque, follia. Ma che follia? Siamo alla follia, stai fomentando odio. Ma che fomentando odio? Sto dicendo che uno con la proprie cose fa tutto quello che vuole. Piccolo trampino della radio, tutti eccitati da Trump. Sembra che un Viagra, un Viagra biondo hai preso. Che hai preso? Tutto quello che fa girare il mondo. Com'era? Viagra biondo che fa girare il mondo. Eccitato da Trump sei proprio. Fermo. Eccitato. Ma cambierà, cambierà. La mia ragazza mi vuole lasciare perché le faccio ascoltare sempre la Zanzara. Ma chi se ne fotte? I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. La Zanzara. Gianni, mia moglie odia la Zanzara, ma l'altro giorno c'è stata la grande rivincita. Mi fa, lo sai che ho scoperto che per andare bene di corpo bisogna mettere uno sgabello? E io gli faccio, lo so già. E lo sai da chi l'ho saputo? Dalla Zanzara. Grazie. Sono sul bidet. Mi sto per curare un'emorroide molto dolorosa. E l'unica cosa che mi viene da pensare siete voi. Vi amo. Cruciani, con quella storia delle particelle di merda che si disperdono nell'aria durante lo sciacquone mi avete rovinato l'esistenza. Cruciani, sei un pirla. Per le emorroidi devi smettere di mangiare formaggio e carne e non bere il latte e non raccontare le cazzate, ovviamente. Ragazzi, è semplice. Se volete dire quanto sono sporchi neri o quanto rubano i rom o volete mandare a cagare Parenzo in diretta, 800240024. Se invece siete persone più normali, cioè pisciate nel lavandino, andate a mignotte, o volete mandare a cagare Parenzo in differita, 393-717-1701. Siamo al top. Vorrei dire, caro Parenzo, due parole su un signore che si chiama Juncker o Juncker. Intanto aspetta, mi segnalano che ci sono dei bambini all'ascolto, dei ragazzi all'ascolto. Quindi allora... evitiamo le parolacce almeno per 10 minuti. Cioè evitale tu, perché io non le ho mai dette. Ma io ovviamente non evito nulla, non è che le faccio quindi apposta. Vengono come vengono. Il torpiloquio. Ma non c'è nessun torpiloquio, questa è una tua idea. Un torpiloquio, non c'è nessun quindi torpiloquio. Evitiamo le parolacce, le cose, eccetera. No, ragioniamo sui temi. Potrei sui darti temi. Una ad lezione esempio, su cosa significa torpiloquio o no. Però temi. Fermo, voglio dire due paroline su Juncker, sul signore Juncker. Juncker. Allora, signor Juncker, come sapete, è il capo della Commissione europea. Ma non l'ha votato nessuno, cioè nessun cittadino europeo ha scelto Juncker come capo. È stato aspetta. Quest'uomo, ripeto, che è al vertice dell'Europa, è stato semplicemente designato da governi. Governi votati dai cittadini. Alcuni no. Cioè, il meccanismo delle... per esempio il governo italiano no. Ma che cos'è un esempio. Ecofin? Che cos'è Ecofin? È il vertice però, di chi? Davide, stai calmo. Fammi finire. Quest'uomo non eletto da nessuno al vertice dell'Europa, ma designato dai governi, ho aggiunto. Non eletto, mi pare un dato di fatto, nessuno l'ha eletto. È un'elezione, diciamo, di secondo grado, va bene? Va bene, mi è concesso di dire questa cosa. Indiretta, non sì, mi interessa, certo, elezione di secondo grado. Potere al Parlamento europeo. Si è permesso di criticare il signor Trump. Il signor Trump. Eletto da milioni di americani. Dunque, lui è eletto da nessuno. Da milioni di americani. Prima dicendo che perderemo due anni. Sì, perché con un deve signore capire, che non conosce niente, ma sa, non sa dire nulla. Cazzate. Non sapeva neanche pensava che Bruxelles. Non sapeva Bruxelles. Succede non sapeva a tantissimi presidenti americani. Dai, non dire stronzate. Non direi. E poi. Adesso ha detto, credo ieri, che ha fatto una campagna elettorale disgustosa. Ma come cazzo si permette questo Juncker che deve poi trattare anche con Trump dicendo a dire che ha fatto una campagna elettorale disgustosa? Ma che cazzo? Ma siamo impazziti? È il capo dell'Europa. Sarà interesse dell'Europa sapere cosa vuol fare questo. L'unica qua. Notizia meravigliosa è questa, sarebbe. Guarda, la NATO va cancellata. Anche dalla NATO. La NATO va cancellata. Domani mattina. In maniera regolare, cancellata. E poi siamo allo strapotere della Russia. Divertitevi. Comunque, voglio segnare che questo signore Juncker, quando era primo ministro del Lussemburgo, come molti di voi sanno, ma lo voglio ricordare, ha aiutato col suo governo centinaia di aziende multinazionali a raggiungere vantaggiosissimi accordi fiscali che poi hanno consentito a queste stesse aziende fortissime riduzioni fiscali. Cioè, quando era primo ministro del Lussemburgo, ha fatto il cazzo che voleva con le aziende. Per pagare meno tasse, non lui, le stesse aziende. Le dico solo questo, no, ma così una piccola cosa. Allora, dove andiamo? Enzo Roma, vai, Enzo. Ciao ragazzi. Dimmi Enzo, dimmi. Ecco, volevo dire a Parenzo, ma quando è che la finite di rompere le scatole al mondo? Cioè, in che senso? Ma chi? La finita è chi? Tu con la Goldman Sachs, la Goldman Sachs. Questo però non sta bene, sai, dalla voce. No, non sto bene. Comunque, no, si capisce che non sta bene dalla voce. Droga fa male. Non ho capito, la Goldman Sachs chi è che rappresenta? Parenzo rappresenta la Goldman Sachs? No, è uno dei tanti manutengoli che lavorano per il mondo. I manutengoli che lavorano per il mondo, è curioso, il mondo non è un'entità. Esatto. Cioè, per chi lavorerebbe? No, ma io lo vorrei capire anch'io, siccome ci lavoro insieme. In Italia. Sì. Con tanti altri come lui, per farci ingoiare le stronzate che la Goldman, insomma, tutto. Praticamente sarebbe un inviato del Bilderberg, non lo so, Bilderberg è ottimo. Bravo, cosa fa il Bilderberg? Cosa una longa manus del Bilderberg sarebbe. No, qui cerchiamo. Allora, mi pare che siamo nel buio più totale. Proviamo a mettere un po' di luce in questo buio. Proviamo a fare un po' di luce. Facciamo un po' di luce per cortesia. Sei un ottimo giornalista. Non ti mettere in politica, lasciala perdere. Quello che c'è, quella è un'idea. Allora, cerchiamo di fare. Lasciaci in pace. Mettiamo un po' di luce in questo buio. Accendiamo una lampadina intelligente in questo discorso. Svegliati. Allora, lei mi sembra uno dalla voce, una persona, lo dico con grande rispetto, un po' disturbata. Primo. Secondo, la colma. Beh, sì, questo fa di molto secondo. Disgustato. No, disturbato. Ecco, una persona un po' disturbata. Secondo, la Goldman Sachs non è la camorra. La Goldman Sachs non è la camorra. Diciamo quindi ne combinano anche loro, ne combinano i signori. La Goldman Sachs ma ne combinano. Stai dicendo che sono dei criminali? No, ne combinano anche loro. Dicendo che la no, Goldman. Assolutamente. Ho detto ne combinano anche loro, però. Questa idea che questo Enzo da Roma. Dice che del potere mondiale in mano non è una puttanata, è una sciocchezza. Ci sono bambini all'ascolto. Beh, diciamo una cosa, però colossale. Mentre tutti dicevano colossale. Che aspetta, però Enzo, c'è una prova che può confutare tutto quello che dici. Mentre tutti sostenevano che la Clinton era la longa manus della Goldman Sachs, la stessa Clinton ha perso. Dunque, in realtà non c'è questo grande potere delle multinazionali, perché poi alla fine il rappresentante quanto è maggiore di quella che era, no? Quella che era definita il simbolo delle multinazionali e delle, dei petrodollari, cioè è stata sconfitta dal popolo bue del Michigan. Questa è la realtà. Allora, Enzo, non è che è così potente. Fosse anche vero quello che dici, no, ho capito, però fosse vero quello che dici, evidentemente c'è qualcuno che li può contrastare. Allora, mi spieghi perché lo spread italiano sta aumentando e arriverà a superare? Vabbè, quello poi adesso quello vedremo. Antonio da Udine, ciao Enzo. Antonio, vai. Ciao Giuseppe, buonasera. Dimmi. E volevo... Oh, dai. Antonio, Ehi, cerca di parlare con un telefono decente, altrimenti ti mando subito a fare in culo, amico mio. No, fermati, eccomi, mi senti adesso? Momento. Allora. Con lo sciopero potrebbe esserci un intervento di Capanna stasera. Vai Antonio, dimmi. No, allora, David prima ha detto una cosa, no? Tu l'hai interrotto mentre lui diceva che lo Stato, se vuole, può fare quello che vuole, anche requisire un albergo. Può fare come lo ha fatto per la TAV, ad esempio, che sono stati indennizzati i proprietari di alcuni terreni per far passare... A te entusiasma il fatto che lo Stato ordina, che lo Stato ordina. Ti volevo, dove sei? A Pyongyang, a Mosca, scusami. Io sono un imprenditore pubblico, se tu passa un'autostrada, la prima offerta la rifiuti, ti danno molti più soldi dopo, sì o no? Sì, però alla fine non è l'esempio giusto, l'autostrada alla fine la fanno lo stesso. Esatto, ma non è l'esempio giusto. Perché c'è l'interesse pubblico che è superiore. Non è l'esempio giusto. Altre persone. Ovviamente uno deve essere indennizzato per questo. Ma dove cazzo è l'interesse pubblico, scusa, di dare un albergo a 15 persone? Ma lo voleva lui stesso, era lui stesso che lo stava trattando. E poi alla fine ci ha ripensato. Ovviamente, siccome non si può lucrare sui migranti. Lui voleva più soldi. Ma ragazzi, ma questo è un imprenditore, non è mica un parroco. Allora, se è un imprenditore, intanto serio, non mette il proprio albergo all'asta per ospitare, per fare dell'altro se non quello che è il suo business, cioè fare l'albergatore. Il fatto stesso che lo abbia messo tra le possibilità. L'abbiamo sentito prima, uno può trattare fino all'ultimo, però se uno alla fine ti dice no, qui i migranti non ci vanno, tu alla fine trovi, tu stato, prefetto, quello che cazzo è, trovi un'altra sistemazione, non rompi bravissimo coglioni a quel poveraccio cardiopatico. Scusami, io ti chiamo dal Friuli, vuoi sapere quante caserme ci sono a mezzo servizio? Beh, però la gente si incazza pure per le caserme. Anche... per tutto si arrabbia, esatto, appunto, per una tutto. Una caserma è pazzesco diversa rispetto a un albergo. Beh, no? sì, effettivamente è diversa. La caserma dismessa, uno dovrebbe dire gli immigranti ci possono andare. Poi no, se uno prende... vanno messe a posto, non è che le metti nelle... ma scusate, ma anche qui, ma scusami. Le caserme dismesse messe vuol a dire posto che per i migranti, vanno adesso messe a norma, ma ci mancherebbe altro. Dove li mandi? Facciamo la spa. Facciamo la spa. Eccolo qua. Wellness. Eccolo qua. Davide, eccoli qua. Dai, eccoli qua. Uno e due. Eccoli qua. Uno e due. Trampino e trampone. Eccoli là. Oh, io sono trampone, che sono 1,90 m. Ma voi se lascia stare cosa siete voi. Sei imprenditore di cosa tu? Io ho una libreria con agenzia viaggi. Bravo, meno male. Da me forse vengono per tornare a casa, forse. Vabbè, biglietti. Ciao. Salute. Parenzo, abito in Belgio, ma vado a sciare ad Albettone. La Zanzara. Allora ragazzi, è stato molto cliccato in questi giorni sul cosiddetto web, caro Parenzo, quel filmato che ha visto il ministro Boschi a Zurigo parlare ad una platea in un incontro organizzato tra quelli che votano sì al referendum, ma aperto al pubblico naturalmente. Il ministro Boschi parlava e a un certo punto è stata interrotta durante il suo discorso, durante le domande che gli faceva un signore lì, non erano certamente domande incalzanti, comunque per spiegare la riforma eccetera eccetera, cose normali che si fanno in campagna elettorale. Appunto. È stata interrotta da una signora più volte, alla fine si è incazzata come una bestia dicendo venga lì, venga, abbiamo questo pezzetto. Ha semplicemente detto allora venga lei, non si è arrabbiata. Beh, bufalita, come no? Si può dire qualunque cosa, non l'ha mandata a fare il culo. Ha detto semplicemente beh, allora se mi continua a interrompere venga qua lei, ma non si è arrabbiata. Sentiamo questo pezzo. Noi non dobbiamo personalizzare, l'abbiamo capito. Appunto, non dobbiamo personalizzare, no? Però deve essere questo, signora, però la prossima volta invitano lei, viene sul palco e parla lei. Stasera facciamo, io le ho già risposto. Allora. Detto questo, allora però adesso però c'è un limite all'educazione verso chi viene a un'iniziativa organizzata da altri e si prega che ascolti rispettando le settimane di persone presenti. Ragazzi, state calmi, state calmi. Vabbè, le cose che succedono in un dibattito a Zurigo. Allora, siamo, almeno mi sembra di poter dire, abbiamo il numero di telefono di questa signora, l'abbiamo individuata. Una si chiama Smeragda. Smeragda, Smeralda invece della L e la K, Smeragda Giannini. Si è scoperto che in realtà è una militante dei 5 Stelle. Cioè, non è che era lì per caso, era lì ad ascoltare la signora Boschi, e poi da militante 5 Stelle, simpatizzante, eccetera, eccetera, è una che ha picchiato duro. Pronto? Sto parlando con la signora Smeragda Giannini? Sì. Buonasera, qui Radio 24, salve. Caro Parenzo, la signora Smeragda Giannini, sì, è colei che ha interrotto 2-3 volte il ministro Boschi durante questo meeting organizzato dai comitati per il sì all'estero a Zurigo, e a un certo punto la Boschi ha perso il controllo, ha detto: signora, venga lei sul palco al mio posto. Quando è che ha detto queste cose la Boschi? Cosa aveva detto lei, signora? È stato in quel momento quando il signore che intervistava le chiese ma voi avete l'avete personalizzata la riforma, eh. E lei disse ah, ma noi di questa cosa non ne parliamo, abbiamo deciso che non ne parliamo più perché abbiamo fatto un errore, poi dopo quando si vedrà il risultato poi ne parleremo. E allora io non ce l'ho fatta più e dissi: ma voi l'avete questa riforma, l'avete personalizzata, sì, sia lei signora Boschi sia Renzi, e io pretendo che se dovesse vincere il no, sì, che voi ve ne andate. E in quel momento lei naturalmente si è ha perso completamente il controllo e mi dice: adesso basta, e venga lei sul palco, venga lei sul palco, certo. E dopo scusi un attimo, ma sì, l'ha interrotta per forza. Lei è una militante dei 5 Stelle? Io per adesso quello che io sostengo è da 9 mesi che sto combattendo contro questa riforma. Io sono simpatizzante, attivista del Movimento 5 Stelle, perché fanno dei movimenti giusti. Vabbè, lei è una militante, non c'è niente di male, mica è la mafia. No, lei è simpatizzante, militante dei 5 Stelle, si batte per il no, giusto? Anche se io non lo fossi, mi batterei per il no. Scusi un attimo, dunque lei è andata lì ad ascoltare oppure già aveva in mente comunque di protestare contro la Boschi? No, assolutamente no. Assolutamente cos'è no. Che le ha fatto, io, cos'è io che le ha fatto girare le scatole? Perché ha interrotto la Boschi? Uno potrebbe dire: ha interrotto la Boschi, una cosa. Una maleducazione. No, secondo... io penso che sia stata maleducata, perché era un'iniziativa pubblica. Insomma, a un certo punto, un po' maleducata indubbiamente allora è stata. Lei mi dica una cosa. E cos'è più maleducazione? È più maleducazione quello che ho fatto io? O è più maleducazione nell'intervista che c'è stato dalla Gruber quando parlò il giudice costituzionale Valerio Onida, che la Boschi dice alla Gruber taglia? Ma guardi, adesso non lo so, e secondo me non è affatto maleducazione. Parenzo, c'è un convegno pubblico, un dibattito pubblico, c'è una persona che sta lì, ascolta, e non mi pare che abbia tirato una banana addosso al ministro, no? Ha semplicemente detto: io pretendo che lei se ne vada se dovesse perdere, o sbaglio? Assolutamente, no, sì. Scusi, però era un adesso, per carità, era un'iniziativa pubblica. Uno alza la manina e chiede di parlare. Non è che interrompe come fosse un'assemblea di centri sociali. Scusi, signor Parenzo, le posso dire una cosa? Alla fine di questo discorso che la ministra Boschi ha fatto, che ha detto una menzogna e una bugia dopo l'altra, che io potevo interferire ogni momento, che non l'ho fatto, alla fine c'è stata la possibilità di fare due domande. Erano pilotate, secondo lei? Ma non solo pilotate, sapevano già chi chiedere, perché le hanno chiamate a nome le persone. Secondo lei le domande erano già prestabilite e già sapevano quello che le persone dovevano chiedere? Assolutamente. Però scusi, uno può dire anche un'iniziativa, diciamo, del sì, e dunque organizzano le cose per conto loro, cioè non era un dibattito pubblico con la Boschi sotto processo, no? No, ma io sono andata là perché ero curiosa di vederla, la Boschi live. Ho visto Marco Travaglio, ho visto il questo show di Marco Travaglio e mi siamo fatte tante di quelle risate che io ti giuro la volevo vedere live, già che lei viene in vista la voglio vedere live. E devo dire, devo proprio dire che normalmente le attrici fanno l'esagerazione per imitare un personaggio, ma io devo dire che la Boschi è stata ancora più esagerata della, cioè? Dell'attrice che ha lavorato con Marco Travaglio, cioè un'attrice secondo lei. Mi sono divertita moltissimo solo a guardarla. Perché? In modo che lei dice queste menzogne e le gira e le volta e la gente che li sta là come che sarebbe la Madonna dei Sette Cieli. Un'attrice che mente spudoratamente. Assolutamente sì. Senta, lei che pensa del governo Renzi? Che è una rovina? Io spero che se ne vada a casa il più presto possibile. Vuole votare no anche per mandare a casa Renzi? A dire il vero, il no è che perché se c'è Renzi o c'è un altro un'altra persona al potere, con il sì saremo nello stesso brodo. Cioè la dittatura, si arriva alla dittatura? Ma assolutamente, si arriva a peggio di quello che abbiamo mai vissuto in Italia. Cioè? Peggio di Mussolini? Forse, non lo so, ma in ogni... Se vince il sì, neanche il Movimento 5 Stelle avrà possibilità di cambiare leggi. Per esempio, che ne so, elevare l'immunità ai parlamentari. Ma no, non è così, non è proprio così. Comunque, lei vede la dittatura, insomma, lei vede una specie di... Ma quale dittatura? No, o no? Sarà molto difficile, sarà veramente molto, molto difficile. Senta, la Boschi com'è? Arrogante? Mamma mia, non lo so dire. Ignorante? Non lo so, no, è una persona coltissima, è molto intelligente, io credo che è super intelligente. È pericolosa? Per tutti quelli che dicono bugie sono pericolosi. Va bene, grazie Smeragda, grazie. Ciao. Ragazzi, questa è quella che ha interrotto la Boschi provocando quella reazione, andatevi a vedere sto filmato se volete. Su internet, la dittatura se vince il sì, è attivista dei 5 Stelle, la Boschi pericolosa perché dice un sacco di menzogne, eccetera, eccetera, eccetera. Sto ascoltando la Zanzara e quindi sono posseduto dal diavolo. La Zanzara. Parenzo, la maggioranza silenziosa inizia a mietere le sue prime vittime. Padova è stata liberata. Padova è stata liberata. Prego, avanti Parenzo. Parenzo, se ti candidi a Padova, cambio residenza, vengo a votarti, ma tu in cambio mi restituisci quei 170 euro che Bitonci mi ha inculato con quei suoi cazzo di autovelox. Parenzo, sono una miserabile, ma voterò per te. Parenzo Uberalles. Parenzo, il popolo silenzioso è con te. Il popolo silenzioso è con te. Ripetiamolo tutti. A Padova, al posto dell'S lunghe, vogliamo le moschee. Le moschee con David Parenzo, assessore alla cultura, Robert Annuna. Parenzo, se il PD a Padova fa un muro, tu dici che risanano i quartieri. Se Trump in America fa il muro, è uno razzista xenofobo. Ma vaffanculo, va là. Io sto a Roma, ma se Parenzo si candida a Padova, mollo tutto, mi trasferisco, prendo la residenza a Padova e voto Parenzo, voto Parenzo. Sì, senta, la sto richiamando per quanto riguarda il lavoro che mi avete offerto lì a Padova. Purtroppo devo rinunciare perché girano voci che Parenzo diventerà sindaco, la città lì si riempirà piena di rom, musulmani, ma mi dispiace, devo rinunciare. Se non dovesse vincere Parenzo vi ricontatterò, grazie, arrivederci. Parenzo, ascolta bene la stanta, mi sei padovano e te dico che piuttosto che votarti preferirei andare sotto il santo e darmi fuoco. Fogo! Fogo! Parenzo, questa è la voce, questa è la voce della gente, la voce della gente. C'è un po' a sorpresa, un po' a sorpresa. C'è consenso. C'è un certo consenso per questa tua, diciamo, candidatura. Ancora non è ufficiale, naturalmente, per questa tua per questa tua... come la possiamo formare, definire? Attorno al mio nome, una coalizione, nomi, persone, squadra soprattutto. Ma la cosa importante è Bitonci che se n'è andato, e ricostruire, ridare serenità a una città che è stata ferita e divisa. Divisa dall'odio di un signore. Vabbè, che dai, addirittura per me è stato un grande sindaco. Per me è stato un grande sindaco. Dai. Ebola, il rischio Ebola. Ragazzi, per a Padova, Ebola. Per dai, me ragazzi, è stato un grande sindaco. Abbiamo sorriso, ora facciamo sul serio. E verrà ora rieletto, sul serio. Verrà ora rieletto a Balanga. Verrà rieletto a Balanga. È da Balanga. Vedere, amico mio. È sì, da vedere. Certo, è da vedere, da vedere. Stiamo costruendo già la squadra di governo. È da vedere. Allora, da ragazzi, vedere. Mi scrivono da Zurigo, un ascoltatore della Zanzara. Quante balle dalla contestatrice della Boschi. La signora è venuta con altri due solo per fare casino. Ecco, punto. Ha interrotto parecchie volte per creare casino ed è stata tollerata tante volte. Ecco, esatto. C'erano 370 persone, 4 che volevano fare casino. Polemica chiusa. Questo viene da Zurigo. Vabbè, non è che questo qua è la polemica verità. Chiusa, c'è la verità assoluta. Però polemica è una persona chiusa. Affidabile, no. Che considero affidabile. Sembra chiaro. Chiaro che sia andata così, lo si vedeva anche dalle immagini. Dai, a un certo punto, la terza volta che è stata interrotta, la signora Boschi con grande educazione, la ministra Boschi con grande educazione ha detto: dai, basta adesso. Davide, su. Provincia di Milano, vai Davide. Davide, ciao Cruciani, ciao Parenzo. Dimmi. Buonasera. Alza la voce. Devo vai. Dire sì. Che io faccio parte di quella maggioranza silenziosa che generalmente non telefona, ma non per senso di superiorità o altro, che sono incasinato, sì, che non sta tanto ad aspettare così. Però faccio parte anche di quella maggioranza silenziosa che quando sente Parenzo maltrattare quel poveraccio non ho maltrattato nessuno sta male. Non ho maltrattato nessuno. Ma scusate, ma lui è come la Merkel con la bambina immigrata, dovresti chiedere scusa. Gli ho fatto semplicemente notare, no, però, con Davide, grande Davide, rispetto, Davide. Visto che lui è al centro di una polemica, questo signore, gli ho detto mi dispiace se si è sentito male, se ha avuto un malore, ovviamente. Ah, vabbè, ma ciò è non una toglie. Premessa, dai, è una premessa flaccida. No, ma ciò non toglie che la polemica rimane, però quella questione rimane. Ma ha tutto quindi... il diritto, Davide, se la pensa diversamente, ha tutto il diritto di maltrattare no, poi dialetticamente, non ho maltrattato nessuno, dialetticamente, perché non ho maltrattato proprio sto nessuno, dicendo, non dialettica... è nel mio stile. Sì, David, ma non è vero. Dialetticamente, no, tu, ma nessuno. Giustamente, dialetticamente, con gli ascoltatori, con altre persone, ogni tanto ci si maltratta in questa trasmissione. No, ma è normale che sia morto, così. Ma non è morto, ma che morto. Per fortuna è vivissimo. Come parlava, era più. Reagiva ai giorni scorsi. Davide, scusa, però a noi ci può importare relativamente questo qua. Certamente se è moribondo sul letto d'ospedale non è che lo chiamiamo, potremmo anche chiamarlo, per carità, cioè è al centro di una polemica, si è incatenato in albergo, davanti all'albergo per non far arrivare gli immigrati, scusateci se lo chiamiamo e se facciamo polemica con lui. No, ma è stato giusto chiamarlo, però non è stato giusto prenderlo così di petto come ha fatto lui. Ma ho capito, lui, ma Davide, se lo maltratta adesso non sta a me difendo, sembra che devo difendere Parenzo mentre Parenzo stesso nega il maltrattamento. C'è stato un po' di maltrattamento radiofonico, di maltrattamento dialettico, ma è normale che sia così, ragazzi. Qui non stiamo a Porta a Porta, non stiamo a in un'altra trasmissione, siamo in una trasmissione dove si usano certe parole, no, dove ci si maltratta, dove si affrontano le cose di petto, dove si dice tutto quello che uno pensa, non è che si fa tic e toc e tic e tac. Ma la cosa geniale che fai tu, ma la cosa veramente geniale che fai tu. Sì, un genio, un po' sono un genio. No, però che tu ascolti il più pazzo e cerchi di trovare una scintilla di novità in quello che dice. E questa è la cosa bella di questa. Non è che di novità, a me piace l'animo umano, a me piace. Ma Cristo che c'ha il night club pieno di negri, che cazzo se ne frega come sta? C'hai il night club pieno di negri, hai detto bene, hai il night club pieno di negri, hai ragione, hai il night club pieno di negri e gli sta sui coglioni, e gli sta su giustamente, che gli hanno imposto i negri. È così, ma è normale che sia così. Cioè questo qua non lo vuole dire, lo dico io, perché qualche volta le persone che chiamiamo non hanno il coraggio di dire tutto quello che penso, e questa volta lo dico io, questo signore odia i negri, è molto semplice la cosa, non li sopporta, neri, diciamo. Beh, sto dicendo mettendomi dalla parte sua, no? Cioè odia i neri, odia le persone, non li sopporta a pelle, non li vuole intorno a sé, ed è un suo diritto, perché quel cazzo di albergo è gestito da lui e non gli si può imporre in nome di un interesse nazionale che in questo caso, caro Parenzo, non esiste, beh, perché certo li possono esiste. Piazzare ovunque dove? Raffaele da Milano, dai, le su. Pratiche erano già state avviate per allora quella, così, allora siccome ordine il prefetto, tutti quanti dobbiamo obbedire e metterci il attenti. Prefetto diceva ordine. Quel documento ordina, perché è lo Stato, Raffaele da Milano è vai. Lo Stato, Raffaele vai, ordina, bellissimo. Dimmi Raffaele, dimmi, togli la voce o qualcosa, sennò ti impicco. Raffaele vai. Aspetta, state facendo i suoi comodi, questo sta cagando, sta pisciando, no, sta scopando, e noi dobbiamo sì, ti sento, dimmi. Niente, volevo dire al signor Parenzo, volevo un parere dal signor Parenzo, no? Io vivo a Milano in una villetta, cioè sì. In una villetta, in un, diciamo un quartiere molto abitato, no? Sì. Negli ultimi 25 anni 20 anni sono stato tranquillo. Negli ultimi 5 anni, 5 volte mi sono entrati i ladri. Aspetta, mi spiace molto. Le transenne, ho messo le transenne, ho messo le telecamere, ho messo di tutto. Tra poco ci mancano i bazooka di fuori. Perché ora io dico al signor Parenzo, scusa. Mi è capitato in viale Jenner proprio in pieno giorno con la mia macchina, una discreta macchina, una Mercedes 200, niente di che, nuovo. Mi sorpassano due marocchini, te lo giuro. Niente di che, una macchina da benestante, da persona benestante. Due marocchini, uscendo uno dal vetro con tutti i bus. E così facendo correre o cose del vabbè, quello succede. Sai cosa ho fatto? Io per aver reagito, avevi fatto con la mano, sei scemo. No? Mi sono messi di traverso, sono scesi uno da una parte e uno dall'altra con il pugno di ferro cercando di intimidirmi. Io sono 1,87 m, non mi sono scusa, come ci sta sotto, come ci stai chiamando? Ho Raffaele? Reagito come ci stai? Sì, ma come? Come? Come? Come? Col viva voce? No, vado avanti? Dimmi, dai, forza. No, niente, con il pugno di ferro, uno da una parte e uno dall'altra, io ho reagito, cioè cercando di tenere chiuse le porte, prendendolo uno con il collo, e sono stato fortunatissimo che dall'altra parte c'era un ponte, un signore col telefonino ha filmato il vabbè, tutto. È un episodio di cronaca, è un episodio di violenza. Devi stare tranquillo, però, come mica sono il marocchino, mica sono il marocchino che ti ha aggredito, devi stare tranquillo, Raffaele. No, io sono tranquillo. Beh, ho capito, ma detto io i tempi, non è che fai tu i tempi. Ma quanti di questi episodi riguardano automobilisti folli italiani e non? Solo gli automobilisti migranti sono violenti, dai ragazzi, su, ma siamo seri. Macchina bella, gli dovremmo dare una macchina bella. Allora io dico una cosa, io sono razzista, sai con chi? Con chi? I balordi, prepotenti e i delinquenti. Cioè, una buona, diciamo, controllata, no? A tutti questi mille vaganti che viaggiano così e si stanno arricchendo le nostre spalle, dopo anni di lavoro ci stanno depredando negli appartamenti. Penso che una regolatina ci vorrebbe. Ma in che senso una regolatina? Tu che cosa faresti nel tuo appartamento, per esempio? Cosa metteresti? C'hai gli antifu? Ho già messo tutto io, cioè più di così non posso fare, perché mia moglie vorrebbe mettere l'alta tensione, ma sai benissimo. L'alta tensione è bellissima, una bella idea l'alta tensione. Ma però onestamente non siamo più. Sei armato? Sei armato? Sono armato perché detesto le armi. Però devo dirti una cosa, dobbiamo chiedere permesso quando entriamo in casa. Addirittura? Sì, e vieni a Milano, te la cosa. Tu vivi a Milano. Io vivo a Milano, amico mio, dipende da dove vivi, naturalmente. A me non risulta. Ma guarda, io sono in zona Porta Venezia e ogni tanto faccio la amico mio, non dire cazzate. A via Padova, lì da qualche parte, c'è ancora qualche problema. Ma saltati a dopo, mi ha messo le mani in tasca. Allora io dico sinceramente, questi saranno anche dei dementi, perché fondamentalmente agiscono non capendo ciò che fanno, probabilmente. Ma onestamente, cioè tutta questa marmaglia niente, questo sta parlando sempre con i cazzo di telefoni. Paolo da Pescara, vai Paolo. Buonasera Cruciani e buonasera Parenzo. Dai, dimmi. Volevo fare una, ragazzi, una domanda. Buonasera, avete rotto il cazzo, dai su Paolo, dai pure tu, inizi col buonasera, avete rotto i coglioni. Che cazzo devo dire? Ma non devi dire niente, devi attaccare a parlare, basta, non va a far culo. Attacca a parlare quello che devi dire, buonasera, lui dice buonasera a lei. Buonasera a lei, ma caro. Dove cazzo stiamo? Dai su. Ok, volevo fare una domanda al signor Parenzo. Sì, se noi italiani, abbiamo il diritto di poter dissentire dall'accogliere i clandestini, perché di tal si tratta. Volevo fare questa domanda, a Parenzo, se mi rispondi. Allora, con tutta la calma che provo ad avere in questo momento, i paesi d'Europa stanno distribuendo migranti in tutta Europa, perché la questione riguarda tutti, non riguarda solo l'Italia, ergo l'Italia deve fare la sua parte, quindi anche i comuni italiani devono fare la loro parte. Dunque stop, se fossero distribuiti equamente in tutta Europa... No, lui sta dicendo un'altra cosa, Paolo da Pescara, abbiamo il diritto... No, non esiste nessun diritto, Non esiste nessun diritto di opporsi all'arrivo incontrollato dei clandestini. Di opporsi a una esigenza umanitaria. Ma quale umanitaria? Chiedo scusa Parenzo che ti interrompo. Allora, l'anno scorso sono arrivati in Italia 150.000 clandestini. Sì, molti non sono manco fermati qua, peraltro. Okay. Se ne vanno in Germania. Okay. 150.000. Di questi 150.000, il 50% ha fatto richiesta per restare sul territorio come rifugiato politico. Sì. L'altro 50% non si sa che fine ha fatto. ok? Allora? Di quel 50%, quindi circa 75.000 persone, solo 3.000 hanno avuto le carte in regola per restare sul territorio come rifugiati politici. Quindi di 150.000 persone arrivate, 147.000 sono clandestini e hanno rotto i coglioni! Hanno rotto i coglioni! L'ha capito questo? E noi ci siamo rotti i coglioni di mantenere questa gente a spese nostre. Allora, uno ma Stato con le palle, niente, uno Stato con le palle, sì, uno Stato storia, con le palle, uno Stato con le palle, i soldi per mantenere questa merdaglia di gente eccolo che non qua. Ha diritto di stare qui. Ecco il razzista. Eccolo ma mi spiega perché io, ma allora, mi spiega perché devo mantenere i suoi deliri sanitari io. Mi scusi, come mi spiega, io pago le tasse e allora, da cittadino che paga le tasse devo mantenere anche lei che usa la sanità. Ti sei mai perché fatto beve, un giro negli capito? Ospedali? Oh. Ti sei mai fatto un giro negli ospedali, nelle sale di attesa? Gli ubriaconi come lei? Di gente che si ubriaca e rompe il cazzo. Appunto. E va al pronto soccorso. E perché lo devo mantenere? E chi le paga le tasse per sti coglioni? E perché troia, le paghi tu? Chi cazzo le paga? Le paghiamo noi. Hai rotto i coglioni. A me tocca mantenere gente come lei. Come a me tocca mantenere gente come lei. A me che io che pago no, le tasse lavoro, devo mantenere un personaggio come lei. Hai devo mantenere. Coglioni, perché io devo dico. Pagare l'istruzione pubblica per lei che non l'ha fatta e anche per no, i suoi figli. Capito? Capito? Ma non sembra. Non sembra. Hanno rotto i coglioni. Non sembra. 147.000 clandestini hanno rotto i coglioni. Sì, adesso il problema sono i clandestini, il problema dell'Italia. Che poteva si stanno a rubare i soldi che potevano essere destinati alle persone italiane bisognose. Vergognati, Parenzo, vergogna. Alle persone italiane bisognose, dai. Certo, come se, certo. Se togliessero, coglione, come se i migranti, città, come se i migranti togliessero soldi ai bisognosi italiani. Ma non diciamo stupidaggini. Piacere, Parenzo. E tu sei a rompere il cazzo piacere, con Parenzo. I clandestini, il cazzo che ti frega. Vergognati. Vergognati, Parenzo, vergognati ogni volta che apri la bocca. Sei una latrina, vergognati. Vabbè, piacere, tu odi Parenzo. Il popolo italiano. Piacere, Parenzo. Tu odi il popolo italiano. No, io no, odio, io non odio nessuno. Tu ma i personaggetti mediocri come lei, animati soltanto dall'odio verso i migranti, perché non ma sanno cos'altro dire, cazzo, e buttano le loro frustrazioni sui migranti, questi le ritengo persone patetiche. Ma che cacchio dici? Quali sono le tue frustrazioni? Quali sono? Ma niente, una persona frustrata. Paolo, questo è chiaro, sei dai. Sposato, sei fidanzato, hai una. Hai un frustrato. Io sono sposato e ho due figli. Due figli. Cioè, non sei frustrato, non hai problemi sessuali. Ma no, questo io non lo so. No, io sono Cruciani. Sto dicendo che spesso si dice una persona che sfoga. No, allora, Cruciani, mo ti dico una cosa, dimmi. Io sento. Tante volte sento la vostra trasmissione è molto bella, ma Parenzo è una fogna. Ma che vuol dire esprimere le sue idee? Che cazzo di ma non puoi esprimere. Ma dai, Paolo, non dire cazzate. Che devi accogliere la gente che non è ma se quello cazzo. È favorevole all'accoglienza, è favorevole all'accoglienza. Ma perché devo pagare il servizio sanitario per questo qua? Perché io devo pagare il servizio sanitario per questo qua? Questo qui chiaramente ha bisogno di cure mediche. Perché io devo pagare la sanità per questo? La pago perché anche lui ha bisogno di essere curato, no? Ecco. Ma io perché devo pagare le tasse per mandare a scuola lei? Perché? Perché sono un cittadino italiano e le risorse vanno distribuite. Ma non capisco perché sostenere un migrante piuttosto che sostenere è Paolo molto, da Pescara è molto più facile che nelle, tra quei migranti che arrivano qui ci siano dei futuri imprenditori, dei futuri piuttosto talenti che Paolo piuttosto che questo loro, che parla ma questo è frega. Evidente la ma storia di quel ragazzo albanese di cui ho già parlato arrivato clandestino in Italia a 17 anni e che ora ha fondato i Genius, una startup cioè, di più migranti, più migranti meno Paolo da Pescara ma dicendo. È più facile che lì dentro ci siano dei talenti veri che fanno il bene del nostro che paese che mestiere fa piuttosto Paolo. Che un personaggio come questo che mestiere qua, fai Paolo? Faccio consulente fai il consulente ma che cosa consulenta? Che cosa consulenza? Consulente ciao Paolo ciao buonasera la zanzara è un meraviglioso allucinogeno peccato che dopo 2 ore si ritorni alla cupa realtà la zanzara se tu sei un vigile, quando becchi uno che va con una prostituta, gli dai il massimo che gli puoi dare, cioè 10.000 euro, sapendo che lo rovinerai, sapendo che gli distruggerai la vita con la famiglia, non sei un vigile che applica la legge, sei solo un figlio di puttana. Ho un problema, vado dallo psicologo, spendo 100 euro, non risolvo un cazzo e non chiavo. Me ne vado a Mignotte, ne spendo 50, coi 50 che risparmio ritorno a Mignotte, mi tengo il mio problema, ma almeno ho chiavato 2 volte. Siamo al top. Non scordiamoci che molti disabili e molte persone diversamente abili vanno con le prostitute proprio perché le donne normali, quelle che non si fanno pagare, non le vogliono neanche vedere, e anche questa gente ha diritto a una vita sessuale, quindi vergognatevi, pulitevi la bocca. Non spariamo cazzate, a certe donne piace prostituirsi e guadagnare soldi e lo fanno con piacere, quindi Parenzo non spariamo cazzate per favore. Ma per cortesia, siamo donne ipocrite. Devi vederle tutte all'8 marzo, per la festa dell'8 marzo, quando ci sono gli spogliarellisti. Altro che farsi svuotare, si farebbero svuotare anche nelle orecchie. Fidatevi, sembra la sagra delle zoccole. Ed ora Zanzarosi, il momento più atteso, il traffico! OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta La Zanzara. Cruciani, ma che problemi mentali hai quando ti compiaci così tanto sentendo parlare quel povero disgraziato che si vanta delle sue prostitute e di quello che riesce a combinare, cioè niente, con queste quattro povere donne mercificate. Anche tu hai dei problemi con le donne, ma pesanti proprio. Franco da Milano, vai Franco, vai! Sì, pronto? Dimmi, dimmi Franco, dimmi. Volevo appunto farti notare che ormai il giochetto sporco che fai l'abbiamo scoperto. Qual è il giochetto sporco? Non te ne fregava niente della... Qual è il giochetto sporco? Fenomeno. Ora te lo dico. Dimmi. A te il fatto della Boschi che è stata interrotta non te ne fregava niente. No, nulla, zero. Capire che quella che no, nulla, zero, perché non c'è nulla di scandaloso. Era del Movimento 5 Stelle. Vabbè, ma quello è normale, ha detto lei che è militante dei 5 Stelle, okay, amico, ho detto poi io. Poi farti arrivare a tuo piacimento un messaggio dicendo che c'era un signore che conosce quella persona e che quella persona aveva tutto l'intento di... Guarda, che non ho costruito niente, ecco, è tutto venuto in maniera naturale e normale, non c'è niente di costruito, fenomeno. Tu, non certo, è che se vuoi te lo faccio anche mia. Vedere. Il messaggio è certo, fatto, è un, una persona che conosco a Zurigo, era quello, che era presente e mi ha raccontato tutto. I poteri a Zurigo, avete morti. Tu è quell'idiota che lui ci ha preso per idioti. Siete morti, finiti, il complotto, avete chiamato il Bilderberg con quella di Zurigo. Ma non ce la farete, siete finiti. Noi del 5 Stelle, ma 3 anni fa, dipenderci tutti per idioti, noi idioti che abbiamo votato per 5 Stelle. Tu hai detto insieme al signor Ferrara che siamo degli idioti. Ora hai detto, lo ricordo. Io non l'ho detto, affatto, io ho votato i 5 Stelle 3 anni fa, figuriamoci. E te lo dico e te lo ripeto. E perché dovrei essere un idiota in questo caso? Sei un idiota, appunto. L'altro signore, vabbè, abbiamo capito che cos'è, sei un leccarenzi, siete tutti e due dei leccarenzi, continuate così. Io spero solo, l'ho detto al signore, che vi chiudano il programma. Chiudono tutto. Vorrei anche che fallisse la radio, però la radio sta fallendo. Spero che non perdano il posto di lavoro i dipendenti. No, ma soltanto noi. Spero che arrivate tutti e due a casa, come Radio Padania. Sì. Come lo auguravate a Radio Padania, ora ve lo auguriamo noi. Sì. A voi. Ma noi chi? Noi lui cioè, solo. Per conto di chi casa, parli, noi andate, di chi? Per conto di chi? A pulire i vetri. Perché cosa c'è di male a pulire i vetri? Cosa c'è di male a pulire i vetri, imbecille? Cosa c'è di male a pulire i vetri, imbecille? Tu giochi sporco, tu perché giocate sporco. Tutto preparato. Ma quale preparato? Ma non capisco. Ma tu sei l'11 settembre era preparato. Per poi dirgli che è una che partecipa sempre a interrompere. Ma per me ha fatto benissimo preparato. A interrompere la Boschi. Ma che vuoi da me? Lo fai da tempo. Questo giochetto lo fai ma da tu tempo. Vedi i complotti bene, anche vediamo. Quando non esistono. Sei malato mentale. Ma sei un malato di mente. Sei un malato di mente. Sei un malato di mente totale. No, no, ma non insultiamo. Cosa fa lei nella sua vita? No, non insultiamo. Che fa lei nella sua vita? Che fa lei? Finirà tutto, ma certo. Quale cosa storia fa lei di che tutto vita? Finisce nella vita? Buona serata a lei, buona caro. Serata, grazie, buona serata, grazie molto. Mi raccomando, un tè caldo, come dice l'amico Garese. Sì, cioè, Luca da Firenze, vai, Luca. Tè caldo è un medicinale, però potente ci vuole. Vai, vai, vai. Oh, oh, Luca! Forza, Alberto, Milano, vai. Cruciani, ciao Parenzo. Dimmi. Ascolta, Cruciani, io volevo dirti, ma tu non hai notato una certa analogia tra Parenzo e la Clinton? No, veramente no, cioè, francamente no. Cioè, beh, tante analogie con chiunque, ma tra Parenzo e la Clinton non le vedo io. Cioè, sì, no, ma aspetta, avrebbe aspetta, votato io... la Clinton in America, però questo molte persone... Cioè, sì, non... sicuro. Cioè, non... No, no, ma aspetta, io volevo farvi riflettere su questa cosa. Immaginatevi Parenzo che si candida a sindaco a Padova. Vabbè, allora, ma, sì, voi, allora... ma chi cazzo lo vota? Vabbè, ma questo bisogna vedere, anche Trump guarda, si diceva... Un consenso anche pazzesco. Trump si diceva, no, chi cazzo lo votava, aspetta, no? Non succede, ma se succede, non succede, ma se succede, non succede, ma se succede, amico mio, se succede, Padova, città, stai calmo, debitoncizzata, bravissimo, città della Daesh, della Daesh, che si rivolgono tutte e due sì. alla gente con strafottenza, predicando assolutamente no. Sarà la gente, sarà la gente a decidere, no? Anzi, sarà la gente casa per casa, strada per strada, dal quartiere Alcella, quartiere Bassanello, dal quartiere, dalle succede. Periferie, il movimento che parte dalle periferie, non succede, ma se succede, Simone da Palermo silenziosa. Simone da Palermo, vai, andiamo a Palermo, ragazzi. Esatto. Vai. Pronto? Dimmi, senti? Dimmi Simone, dimmi. Parenzo, ti volevo solo dire che sì. ho avuto qualche incontro con questi migranti nella stazione, cerco comunque di confrontarmi. Sì, tu sei troppo, no, ti dico, tu sei un buonista, perché no, tutt'altro, loro... sono cattivissimo io. Io sono una persona molto sì, cattiva, non è vero? C'ha gli occhi foderati di prosciutto. Sono ti dico. Cattivo no, con i cattivi, con i razzisti, sì, sicuro. Sì. Ma non è proprio, guarda, io sono buonissimo, guarda, loro, ti dico, loro, io gli ho chiesto come ti trovi in Italia. Tutta questa gente dice, ma perché l'Italia è il paese tuo? La loro religione, dicono che la terra è di tutti. Cioè, quindi loro non si sentono ospiti nel nostro paese, loro si sentono come se fossero a casa loro. Ma cosa dici? Loro non si vogliono nemmeno integrare, loro le nostre tradizioni. Alcuni la vengono cultura. Qua per lavorare, ma cosa sta dicendo? La ma nostra ieri sera, ieri sera. Ma ci sono in Italia un milione di musulmani integratissimi. Questo ma nel nostro lavora, paese ci sono già un milione cultura, di musulmani non che lavorano. Le nostre regole. Ti rendi conto quello vabbè, ha detto basta, no, ma questa allora scusi dove va allora mi faccia capire dove va a comprare il fumo lei su dove lo compra il ma fumo perché cosa devo no che cosa ho detto dove, di dove sbagliato lo compra, voglio sapere ma dove compra il fumo ma perché non le interviste dove qua? Compra il fumo chiedi, dove lo compra voglio chiedere, saperlo perché è impastato male dove compra il fumo voglio sapere dove compra il fumo fermi tutti fermi fermi Parenzo lo sai perché il tuo popolo è silenzioso? Perché non c'ha un cazzo da dire. Ciao. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15.30 tutti i giorni su Radio 24. La Zanzara. Ragazzi, con tutto il rispetto per gli immigrati, Donald Trump, Renzi, Joe Formaggio, a me interessa solo fare impacchi di figa. È chiaro? Allora, Parenzo, è arrivato questo messaggio da un signore, te lo faccio ascoltare. Cresce il consenso. Aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, te lo faccio ascoltare. Sì. Questa notte con la superluna mi sono trasformato in super lupo mannaro e sono andato a caccia di zingari. Ho aggiunto altre due prede alla mia collezione. Cioè, questo qua si proclama cacciatore di zingari. Ma probabilmente non è vero, ma anche solo ma forse denuncialo, dai il numero. Aspetta, alla aspetta, polizia, aspetta, io perché... voglio capire se è vero, parlaci tu. Di Messina, eh? Parlaci tu. Non risponde, non risponde. Risponde la segreteria telefonica di... Ma abbiamo qui il primo deportato, il primo deportato, il primo deportato dell'era Trump. Tra poco te lo presenta, anzi si presenta in questo modo. Il primo deportato è già arrivato in Italia, la grande deportazione dei clintoniani. Sentiamolo. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a brighter Sunday when I kissed you and called you sweetheart? Il primo deportato dell'era Clinton, clintoniano di ferro, uomo della Goldman Sachs, uomo dell'alta finanza, elettore della Clinton perché ha votato per la prima volta in America, Mario Platero, più cantante che giornalista, no, ormai no, praticamente no, no, fuori questo... da tutto, la come nuova dirigenza del Sole 24 Ore, i nuovi padroni lo cancelleranno via, no, momento, Mario momento, Platero! Momento, aspetta, momento, che eccoci, momento. Giuseppe, andiamo avanti perché qui abbiamo portato avanti la battaglia, ma ho dedicato la canzone a Donald Trump perché lui in fondo è un... È un romanticone. Questo è Elvis Presley. Bravo, Elvis bravo. Presley, hai capito? Lui, make, com'è? Lui dietro... come lo so, dicelo in inglese, bello bello. Let's make America great again. Hai capito? Ma certo, ma perché Trump è un genio, quello ha mobilitato il paese, ma, ha fregato tutti. Ma comincia a leccare il culo a Trump adesso. Ma, no, ma, io so, ma vedi, voi partite dal presupposto. No, bravo, bravissimo, Platero, brava persona, partite bravissimo. Dal presupposto, voi da un Platero unico presupposto. Giunta, che se uno dice le cose vanno in un certo modo, perché succede. Cioè, sei già salito sei su schierato! Carro. Quello è schierato. No, e questa è la fotografia. Noi abbiamo una fotografia. Perché hai votato? Perché questo, tu per la prima volta. Barisoni. Per la prima volta hai votato in America. Per la prima volta hai votato in America. Dai, adesso devi farci una rivelazione, non è il segreto, non è il segreto di Fatima, non è il segreto di Fatima. Il segreto il giornalista. Allora io sarei io sarei espulso dall'albo dei giornalisti americani. Ma chi americani. Se ne frega, ma non è vero. Bravo, ma come no? No? Ma il figlio ragione, di Trump ha detto perché ha votato, ha fatto vedere la scheda elettorale di voto. Quello è il figlio di Trump, ma quello stai scherzando. Dai, dimmi perché ha votato, per la Clinton. A differenza dell'Italia, il giornalista deve dare un quadro, capito? Invece da noi ecco tu, ma tu non sai i tweet che ho ricevuto dopo che Sebastiano ha cominciato a dire Mario che sei figlio di Clinton. Perché ho sbagliato, ho sbagliato come ha sbagliato tutti, ha sbagliato i repubblicani, ha sbagliato, ma persino Trump quel mattino lì diceva ma dice io qui ho paura che non va bene. Sai prima che diceva di là del vetro Mario ascoltandoci che in America questa trasmissione sarebbe chiusa immediatamente dalla Federal Commission. No, ho sentito delle parolacce serio, scusami Giuseppe, ho sentito delle parolacce prima il povero Parenzo è stato ma con quello che urlava delle esatto, cioè la bravo. Federal Communication Commission che se uno dice pipì omma allora cosa fanno? Alzano il volume cioè saremmo chiusi chiusi. No, chiusi no, magari multati, viene una multati. Se giusto, una accusa, un paese serio non si devono dire quelle parolacce. Mario Platero, il primo deportato. Ciao Mario, concludi con la canzone. Com'è l'altra strofa? Com'è che fa l'altra strofa? Cioè dove lo mandi scusa? Perché aspetta, lo mandi aspetta, via aspetta, già? Aspetta, certo che lo mando via perché una volta che c'è qualcuno di autorevole per fortuna. Aspetta, hai capito caro Parenzo, qua non si può fare. Dove vogliamo fare? Vai tranquillo. Io un cabaret continuo. Riprendiamo. Perché questo è il cuore di Trump, sì. Che lui faceva Las Vegas, invitava i cantanti, quindi lui è un romanticone sì, sotto sotto. È già salito sul carro questo. Hai capito? Vai. Allora. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a brighter someday when I kissed you and called you sweetheart? Mario Platero! Dopo essere stato cacciato dal Sole 24 Ore, fra poco nuova carriera da cantante già in corso. Ma ciao Mario, cacciato? Ciao, sto scherzando, ciao. Ci trasferiamo, caro Parenzo, in provincia di Brescia, a Montichiari, dove ci sono quelli che tu chiami miserabili, che si oppongono all'arrivo in caserma in una caserma vicino all'aeroporto di Montichiari di 130 immigrati. Il signore che abbiamo chiamato per telefono pochi istanti fa durante uno degli intervalli si chiama Serino. Si chiama Serino, che è un erede. Serino, come si chiama? Sì, Serino, che cazzo dite? Serino. Serini, Serini, vabbè, Serino, Serino. Serino chi è? Ah, un altro, un amico mio, sì. Serini è una caserma intitolata, credo, allo zio, al prozio, non mi ricordo. Un militante di Fratelli d'Italia si oppone all'arrivo, insieme agli abitanti di Montichiari, che da una settimana sono lì con le barricate a fare i cortei, all'arrivo di 130 immigrati. Hanno sentito la voce di Trump e si sono esaltati. Più Gorino, più Montichiari, viva Trump! Pronto? Sì. Sto parlando con Carlo Serini? Sì. Salve, buonasera, qui Cruciani, Radio 24, ciao. Sì, buongiorno. Come andiamo? Bene, grazie, tutto a posto. Come vanno le barricate? Insomma, ci teniamo, come dire, in allenamento, perché sono 200 persone che continuano a manifestare e a presidiare lo spazio antistante la caserma. Ma arrivano sti immigrati o non arrivano? Ma lo dovrebbe chiedere a Renzi. No, dico, erano annunciati, no? Quanti erano? 130 che dovrebbero andare? 130 che dovrebbero essere inseriti all'interno del sedime aeroportuale dentro l'ex caserma Serini. Dentro l'ex caserma. E dov'è il problema? Non capisco qual è il problema. Parenzo parla. Ma il problema è che mettere dentro un aeroporto funzionante 130 persone che non hanno niente a che vedere con quella struttura è un controsenso. E dunque chi li vuole mettere dentro là, che è pazzo? Esattamente. Cioè, chi vuole mettere quegli immigrati dentro quella struttura è un pazzo criminale. Assolutamente un forsennato, è una persona che non capisce la differenza tra lo zucchero e il sale. Però io dico una cosa, non è più onesto dire noi comunque a Montichiari 130 immigrati non li vogliamo, caserma o meno, aeroporto o meno, sì o no? Allora, tenga conto che Montichiari è un comune di 4.000 abitanti. Ci sono già 250 immigrati ospitati a vario titolo all'interno dell'area del comune di Montichiari. Ne vogliono mettere altri 130, spendendo 3.250.000 euro per 130 immigrati. Li spenderebbero comunque per questi qua, cioè... No? Sì, ma è folle. Ma cos'è folle? Non capisco. Non cioè, voi li volete o no? Non li volete a prescindere dalla caserma? Non li vogliamo. Oh, ecco, no, ma ho capito. Parenzo, la realtà è molto semplice. Che, no, aspetti un attimo, Serini. No, ma perché io prendo molto sul serio quello che dice lei. Lei mi ha detto c'è un problema di sicurezza per la caserma e in più i cittadini di Montichiari per l'aeroporto. Vabbè, l'aeroporto, quello che è l'ex caserma. Sì, ma il problema mi pare abbastanza evidente. Non è la caserma in sé, è che non li vogliono. Cioè ci sono partiti come come i Fratelli d'Italia, fratelli, poi non si capisce di chi sono fratelli, ma insomma non importa, perché tra i fratelli ci sono anche molti immigrati che da 10 anni vivono qui, quindi sono cittadini italiani, quindi anche quelli sono suoi fratelli. E quelli sono suoi fratelli d'Italia. Anche questa è una cosa abbastanza... Sì, ma il tema è che voi costruite campagne elettorali sulle spalle di questi rifugiati, parliamo in questo caso di un numero totalmente esiguo, e quindi trattate queste... 130 persone per io una con comunità chi, come con quella. Chi ho il piacere di parlare, io con chi no, ma non c'è Parenzo, nessun piacere per la verità, purtroppo. No, non ho è Parenzo, nome, chiedo... è Parenzo, si chiama Davide Parenzo. Parenzo. Ecco. Molto, molto, molto detto, signor Parenzo. Allora, beh, guarda, non posso dire altrettanto, ma comunque il l'educazione dovrebbe essere sempre la stessa, quello ma no, ma l'educazione, ma è ovvio, come persona, sicuramente lei è una persona, quindi io rispetto la persona, non ripeto la funzione, cioè quel che lei rappresenta, perché lei rappresenta un pezzo di Italia che alimenta l'odio. E no, io non alimento l'odio. Ma certamente no, creare un caso su 130-140 persone, non mi interessa a me PD, PP, Pulù, non mi interessa. Qui stiamo parlando di 140 persone, non cose, non scatole che si spostano da una parte all'altra, sono persone, rifugiati. Ma non li vogliono, non li vogliono a Montichiari. Allora, premesso che non sono scatole, non sono oggetti, non sono banane, non sono frigoriferi, ma sono delle persone, è interesse di una collettività trovare il modo per risolvere la questione dell'accoglienza, che non può riguardare bene, soltanto Parenzo, un comune. Adesso che ha parlato per molto tempo, posso parlare io. Dunque, fosse per voi, se arrivano calci nel sedere a questi immigrati. Un attimo soltanto, i calci nel sedere non li ha mai tirati nessuno. Uno, meno due, male, signor meno Parenzo, male. Quando io ero in Africa a curare le persone colorate che arrivano qua, non colorate. Mi sembra di averlo visto insieme a me. Colorate. Io ho alzato il colorate, ha detto. Andare in Africa ad aiutare le persone colorate in Africa per ha detto colorate o sbaglio? Sì, sì, ha detto colorate. Ha detto colorate? Ho detto colorate. I miei fratelli africani, perché sono miei fratelli africani, li vado a curare in Africa, d'accordo? Perché appunto perché ad essi riconosco il valore di persone, li tratto come persone a casa loro, li tratto come persone, sono miei fratelli, ne rispetto le loro origini. Però se vogliono, se vogliono venire a Montichiari, permesso e termino, permesso e termino. No, scusate, io mica stavo a tribuna politica qua, ho detto secondo soltanto. Ho detto semplicemente lei ha rispetto, lei ha rispetto, va benissimo, l'abbiamo capito, lei ha rispetto. Non sono scatole, non devono venire qua trattati. Vabbè, ma siccome arrivano, arrivano, allora voi però li rifiutate. Arrivano e li rifiutate. Arrivare e deve essere loro impedito di arrivare. E dove vanno questi qua? Questo non è un problema che posso risolvere io. Non hanno okay, ma dove vanno concretamente, paese, secondo lei, dove dovrebbero andare? Dove sono venuti? Cioè, rimandarli, rimandarli. Tornano dove sono venuti. Sì. Ecco un altro lavati. Trump. No, non sono Trump. Sono ecco un altro Trump che vuol dire. Che c'è? Quell'altro che li vuole spedire via tutti, no? No, vuole spedire i criminali. Vuole spedire tutti via. Le persone che non hanno e che non hanno un diritto a rimanere sul territorio italiano. Infatti è quello che si stava lottando. Va bene, sì, grazie, grazie, arrivederci Serini, arrivederci. Arrivederci a voi. Allora ragazzi, però deve essere chiaro, io sono anche a favore del fatto che le comunità si oppongono quando un prefetto vuole piazzare i migranti da una parte e loro non sono d'accordo. Posso anche essere, come dire, favorevole a una sorta di opposizione, però deve essere chiaro, non ci pigliate per il culo, non è perché c'è la caserma e la cosa nucleare e questo e quell'altro. È perché non volete i migranti, non volete gli immigrati di colore in mezzo ai coglioni. Cioè questo è il punto, non vi nascondete dietro le caserme, quelle e quell'altro. Non volete gli immigrati, non è che non possano andare in quella caserma perché c'è un pericolo. Non siete voi a valutare il pericolo, no? Non siete voi a valutare il pericolo. Va bene, salvo Reggio Emilia, vai, salvo. Chiudiamo, chiudiamo tutto. No, dai, che chiudi, chiudi, aspetta, chiudi, salvo. Chiudi tutto, ormai dimmi, è finito dimmi. Tutto. Sì, Lorenzo, volevo chiedere una cosa. Sì, perché? Ma si sente poco, amico mio, dai, salvo, su. Si sente poco. Sto parlando... si sente poco, amico mio, si sente poco. Vabbè, griderò, dai. Dai, niente, Sebastiano Roma, dai, Sebastiano. Cioè, guarda, questo è un discorso per Parenzo, che io volevo solo dire ai migranti, migranti, avete rotto i coglioni, non abbiamo rotto i coglioni. Questo è un problema dello Stato e se lo risolve lo Stato. Volevo solo dire una cosa a Parenzo, perché ha sbagliato a dire una cosa. Il prefetto... ordina, perché lo Stato ordina sopra il prefetto e noi dobbiamo obbedire. Gli voglio ricordare il fascismo, Parenzo, il fascismo, prefetto, bravo, e la deportazione degli ebrei. Ma meno male che c'è stato il qualcuno ma siamo in democrazia, ma non c'è cosa c'entra. Chi è che mi sta chiamando da sconosciuto? Scusami, signor Parenzo. Sì? Solo questo volevo dire. Guarda, poi no, no, hai ragione, hai ragione, Sebastiano. Hai ragione. Chi Luca da Firenze, il numero sconosciuto che sono in diretta. Luca da Firenze, vai, Luca. Sì, ciao, ciao Crociani. Dimmi, dimmi. Ti volevo solamente dire che riguardo la signora che ha interrotto il ministro Boschi, che ho sentito nella trasmissione che ha detto che è lecito andare a interrompere un comizio o comunque una riunione come era quella. No, non ho detto che è lecito, ho detto semplicemente che si può interrompere tranquillamente un dibattito pubblico, non è che gli ha tirato la roba addosso. Voleva intervenire e ogni tanto ha interrotto il ministro, non mi pare una cosa così scandalosa. Qual è il problema? Era un comizio, non era un comizio in piazza, era una seduta con quello che fa le domande e un pubblico davanti. Chiaro? Benissimo, allora facciamo una prova. La prossima settimana, Crociani, vai a interrompere un comizio del... Ma non era un comizio di Grillo, non era un comizio, era un dibattito pubblico, ha tutto il diritto quella signora di intervenire e interrompere la Boschi. Anche a me ieri è apparsa la Madonna e mi ha detto: ascolta la zanzara. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24, libera la voglia di fare.